dopo aver combattuto Eidos e appunto Zanzan è morto. Niente, ok, no, niente. Zanzan è morto a causa di un'esplosione fatta da Erindor. Nessuno se ne è accorto, grazie a Dio. Ivan è riuscito a uccidere Eidos utilizzando... No, non è stato lui, però comunque ha utilizzato l'artefatto ai danni di Eidos e si è ritrovato con un artefatto e un fito in mano. Dopo un po' lo sconcerto generale, abbiamo deciso di ritornare alla casa, appunto. Aspetta che devo abbassare un attimo l'audio che... Tra l'altro ho sbagliato canzone. Cioè, ho sbagliato playlist. E vabbè. Tornando, siamo iniziati un po' a chiedere cosa sia successo, cos'è l'artefatto, il fito, eccetera, eccetera, finché Adone non ha... non quell'artefatto che gli è stato passato da Ivan gli ha assorbito, ciucciato via tutta la magia. Lui era lì, boh, dai, continuiamo a camminare, non succederà nulla di male. È caduto a terra con le convulsioni, ha assorbito l'artefatto e dopo poco lo ha risparato via. Da lì c'è stato un tiro alla fune su chi prendeva in mano l'artefatto. Alla fine Ivan l'ha preso in mano e fa, no, no, tranqui, andrà benissimo, a me non farà niente. Cade a terra con le convulsioni. Però gli sembra andare meglio, potremmo dire. Si rialza poco dopo e dice, andiamo. Noi andiamo, tutti si stanno cacando in mano, Adone non capisce, Naya manco, gli altri. Erindor vuole assolutamente toccare l'artefatto con i suoi guanti. E dopodiché arriviamo finalmente alla casa, dove però ci saremmo aspettati di trovare Batu. Troviamo invece al suo posto uno scheletro. Di quelli che si è trasformato lo vescovo, eccetera, che corre verso di noi, si inginocchia davanti a Ivan e ci lascia passare. Assolutamente non è posseduto Ivan, assolutamente no. Infatti gli avevo anche chiesto, sei posseduto Ivan? No. No. Ci fidiamo di Ivan. Al che andiamo dentro la casa, Ivan smonta il medikit prima che noi lo possiamo usare per rinsanarci. Dio Cristo. Prende delle cose da Erindor, cioè si va a dare delle cose da Erindor, e riesce a salvare Ren utilizzando uno strumentopolo, ovvero una siringa che le ciuccia via le cose che la appesantiscono. E di estranee, ovviamente, al corpo. Dopodiché cerchiamo un attimo di parlarci, di capire un po' su cosa fare, sul da farsi. Ivan appunto ci spiega che quello che abbiamo assorbito, cioè quello che lui ha assorbito è il cuore, cioè il cuore ardente. E appunto dobbiamo portarlo all'avatar dell'entità con cui ha parlato. E questo avatar si chiama Promezia ed è la principessa. Ecco, abbiamo interrotto la sessione. Riprendiamo da quel momento esatto. Cioè, siete nell'atrio della casa e ci siete solo voi cinque rimasti: Adone, Erindor, Gideon, Ivan e Naya. Perché Kael e Ren sono in una stanza, Carl è andato in un'altra e gli altri personaggi che erano con voi ne avete perso le tracce. Batu non si sa che fine abbia fatto. Vabbè. Devin è scomparso. Devin è scomparso. Zanzan l'avete lasciato nell'altra casa. E credo che basta, non c'erano altri NPC. Quindi, sì, ditemi voi cosa volete fare. Ren ha appena scoperto che Zanzan è anche morto. Sì. Beh, ha tirato la bombshell, quindi immagino che c'è la reazione. Sì. Quando dici questa cosa, appunto, di che la principessa Adone rimane sorpreso, sicuramente, è spiazzato. Però fino a un certo punto... O meglio, a quel punto Adone dice, quindi il vero nome della principessa è Promezia? Qualcuno sa questa informazione? Totally not Ivan, cioè l'entità dentro Ivan la sa, l'ha appurato e ce l'ha detto, no? Lo prendiamo per vero, immagino. Sì. Comunque. Anche perché poi fai uno più uno, inizi a pensare a Eidos che stava lì dalla principessa. E insomma. Sì. Lo stai dicendo in carcere? Il cadavere della principessa? Gine, non ti sentiamo. Non ti si sente. Ah, ecco, cioè, per essere troppo silenzioso. No, non ti sentiamo. Questo spiega tanto. Meno male che hai la webcam attiva, se no stavo qua per gita. Veramente. Fra, non ti sentiamo. Ok. No. Minuto tecnico. Così io cerco la mia penna. L'ultima volta abbiamo anche parlato di come il cadavere all'interno del nucleo sia stato bruciato nell'inceneritore da Zanzan. Sì, sì, quello perché, diciamo, a cui Ivan alludeva come quello, il cadavere della principessa. No. Naya sa, sì. No. No. No, Ivan, no. Naya ha chiesto se Promezia fosse la tipa che era dentro il nucleo. Ivan fa no, è la principessa. Ah, ok, ho capito male io. No, sei full mutata adesso, Jin. Full mute. Ah, no, è vero, non ci sente. Devi proprio riattivare il microfono. Ah, penso che stia facendo i test. Ok. Ah, ok. Vabbè, lo aspettiamo un attimino, dai. No, Jin. Siamo 5 minuti in anticipo, può aspettare. Sì, sì, sì, sì, aspettiamo tutto il tempo che c'è bisogno. Ma aveva salutato all'inizio o me la sono autoilluso io? Che adesso anche giuro che non ne ho idea, adesso mi viene il dubbio. Penso di no. Jin? Se è acceso il microfono? Se era acceso, l'ho visto. Ma funge. No, è quello... Da cosa ci stai chiamando? Parla? No. Si sente pianissimo. Sento un microfono. Ho paura che sia un microfono interno. No, forse è quello, Devi forse metterlo molto vicino alla bocca. Parla. Ma io ho un tecnico in casa. No, adesso non sentiamo. Ero pronto ad arrivare, ma sembra funzionare. Ce l'abbiamo fatta. Un attimo che però io non vi sento dalle cuffie. Ok, va bene. Ma sono cuffie nuove. Fide timpera, un problema alla volta. No, non c'è nulla di nuovo. Oggi è così. Scusami. No, Rox. Riparte una parte l'altra. È come la l'uomo che ride, cani. Ma è Rox. Che ride e poi scompare. Volevo spaventarmi. Ok, così, tanto per. Non volevo capire se laggata era super un motivo. Work. Ok. Se va, funzionare. Senti? Grande Gin. Ottimo. Ti senti? Performance. Questo era un test tecnico. Mi confermate che Ivan dice che quella che... Il cuore va riportato alla principessa, che non è la persona che era nel nucleo. Sì, dice che... No, lui ha detto che dobbiamo... Aspetta. Sta laggando? Sì. Mi senti, Rox? Ok, adesso sì. Ok, Ivan la scorsa volta ha detto che dovevamo riportare il cuore a Promezia, e noi diciamo quale, perché oggettivamente ne conosciamo un po', e allora Ivan dice la principessa, name drop, e finisce la sessione. Okay. Siamo ripartiti da lì. Adesso Adone ha detto, quindi il vero nome della principessa è Promezia. Sì, Adone, grazie. E quindi siamo qua. Aspetta che abbasso stop. Possiamo riprendere a ruolare. Naya chiede a Ivan come fa a sapere dove si trova, dove trovare la principessa. Mi è stato detto. No, fermi. Adone dice nella cattedrale. Te l'aveva detto The Voice. A me? Nella cattedrale. Sì. Cioè no, a Ivan. No, Ivan. Ah, ok. Sì. Ok, scusa, non avevo capito. È nella cattedrale. Adore si passa un attimo la mano sulla fronte, dice... Non succederà nulla di positivo a fare solo... ciò. Esatto, stavo per dire, solo io sono l'unico a pensare che forse non è una bellissima decisione, visto che l'entità che sta... cioè, dovremmo togliere l'artefatto e ignorare quello che... There's still something going... Allora, out of character, there's still something going on a Oclica. C'è comunque un'entità che sta facendo caos, quindi c'è qualcosa going on. Questa... Ma ascolta, questa cosa dilla in game, perché... Ok. In che senso out of character? Cioè, come... Vi ricordo allora che... Guardate che durante... quando Kayel ha spezzato i contratti... È successo qualcosa. Qualcosa ha cominciato a creare caos. Cioè, non l'ha specificato. Non era Oclica? Non è specificato. Cioè, non ve l'hanno detto, però... Allora, voi avete visto delle robe succedere. E... che Kayel aveva implicato che fosse la sua città d'origine. Che è Singida. Ok, quanto è distante? È sempre... Parte sempre nel regno? Parte dell'impero, però tipo la zona più a sud. Se mi dai 5 secondi ti dico okay. Quanto dista. Cioè, ci si arriva in meno di 15-20 ore di treno. Ok. 15-20 ore. Ma noi come facciamo a raggiungere la cattedrale in questa situazione? Cioè, tecnicamente dovremmo essere rinchiusi qui dentro e quando scoprono che non siamo più rinchiusi qui dentro, dubito che essere al centro della città sia... Di questa cosa due punti. Una buona idea. Cioè... Primo, vogliamo assolutamente dare ascolto a un'entità che fino a 5 minuti fa ci mandava scheletri addosso, oppure no? Secondo, forse è il caso di andare a cercare anche Devin, visto che domani faranno la conta delle altezze e già c'è uno scheletro di fronte casa, poi incominceranno a farsi diverse domande, insomma. Il fatto è che se non consegniamo il cuore, Ivan morirà. Onestamente non penso che domani mattina saranno normali le cose, perché penso che si accorgeranno abbastanza presto che tutto quello che è successo con Eidos. Non credo che... Ren che è stata curata, Zanzan che non c'è. Nel momento in cui abbiamo lasciato questa casa, abbiamo già segnato il nostro destino. Quando siamo partiti per la missione. Non potrei... In effetti avevamo fatto conto di non tornare indietro in qualche modo. Bianici, io mi rendo conto che... Cioè, come ha messo il coniglio? E il coniglio è già puffato. Cioè, lo puoi risammonare e quindi okay. Il suo messaggio è stato consegnato. A Legendary, nel senso. Check. Ma Devin, forse dovremmo trovare Devin effettivamente, visto che era lui quello con il piano. Prova a castare Seeking Light e vedere dov'è. Interessante. Dammi un attimo. Devo leggere una spell, come funziona. È l'equivalente del telefono. Ok, dammi ancora 2 secondi, perché è un'interaction un po' strana. Ok, funziona. Cioè, devi prendere un sassolino, quindi puoi anche prendere un oggetto che c'è. Sì, una posata, che ne so. Cioè... Ok, prendi una forchetta. Esatto. E lo fai. La forchetta si alza, quindi la vedete tutti alzarsi, e iniziare ad andare verso l'uscita. Nel frattempo... Okay. Ora finalmente leggo i miei cazzo di appunti. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Il rumore ricorda vagamente un suono familiare che avete udito numerose volte nel corso delle ultime 2 settimane. 6 esplosioni all'esterno, forti e vicine, nessun altro suono. La forchetta va verso le esplosioni. Provo a inseguire. Anche perché comunque generalmente immagino che tutti vogliamo vedere cosa sta succedendo fuori, quindi... Ormai. All'esterno i frammenti dello scheletro meccanico sono stati sparsi per il vialetto, come se fosse stato smontato frettolosamente. Al centro dei suoi resti c'è un'arma da fuoco familiare, nel suo essere unica e antiquata, l'archibugio di Zan Zan. L'oscurità avvolge la strada, illuminata soltanto dalla forchetta che fende la notte. E si vedono solo le chiome di due alberi e un muretto diroccato. I resti della bilancia smontata da Ivan, le ossa bronze e quell'arma, nient'altro. La forchetta prosegue verso il muretto. Ok, molto lentamente. Se non è innescata, la Seeking Light decelera quando si avvicina al bersaglio. Cioè, okay. Fino a posizionarsi a... Ok, a una distanza fissa. Quindi vedi che decelera in prossimità del muretto. Il silenzio... Il silenzio viene interrotto da una voce familiare, vicina, ma non si capisce da dove provenga. Ho bisogno di cambiare playlist, datemi 5 secondi. Cavolo, l'avete speedrunnata sta parte. Non vi davo un euro. Ma... No, davvero, davvero, cioè, ero convinto che durasse, cioè sarebbe durata... un sacco, invece. Siamo sempre pronti a sorprenderti, Bianca. Sì. Sottovalutaci, dai. No, ci valuta nella giusta misura. Avete fatto quello che dovevate. Datemi l'artefatto ora. La voce sembra essere quella di Devin. Il suo tono è agitato ma assertivo, come un generale che sta dando ordini di emergenza. Scusami, ripeti che mi hanno distratto un attimo. Quindi c'è Devin con questo l'archibugio di Zan Zan? L'archibugio di Zan Zan è al centro del vialetto. Aspetta, abbiamo l'immagine. Okay. E qua c'è l'archibugio. E sparso intorno ci sono i frammenti dello scheletro. La forchetta si è fermata circa qua. Ok. E lì c'è via Devin oltre alla forchetta, immagino. Immagini, esatto, però non lo vedi. Cioè, sento solo la sua vocina. Esatto. E ha detto, avete fatto quello che dovevate, datemi l'artefatto ora. E tu hai fatto? Vi ho lasciato fare. Te ne sei andato... No, non ci hai lasciato fare, te ne sei scappato via. Non sarei stato utile in combattimento comunque. Questo è vero. Hai una pistola. Hai letteralmente una pistola, però ok. Che non avrebbe sortito nessun effetto su Eidos. Cos'è che non ci stai dicendo, Devin? Voi non sapete cos'è l'artefatto, io sì. Beh... Come allora, dire... Se sai cos'è l'artefatto... Dovresti sapere dov'è adesso. Sì. Ho seguito ogni cosa che avete fatto. Il Petri è in grado di estrarlo da Ivan, mentre voglio che a portarmelo sia uno degli altri. Erindor... Ora che hai ucciso l'orso mi fido un po' di più di te. Siamo come fratelli, no? Estirpiamo le erbacce. Tu con Eidos e Zan, io con il mangiamostri. Ok. Io guardo gli altri. No, allora, non c'ho energia per mandare le spell. Avete un cazzo di spell. Allora, io... Ero già dell'idea di estrarre l'artefatto da Ivan, però ovviamente, insomma, così sotto minaccia non è esattamente una situazione un po' particolare, però... Il peccato è che tu non penso, tu non ne sei in grado. No, infatti Petri ha detto, sei tu l'unico. Sì. Il Petri, lui. Dal nord Italia, Devin. Sì. È canon. Purtroppo. No, Naya gli dice. Adesso correggimi se sbaglio, però gli dice che. Tu ci avevi detto che non sapevi di cosa si trattasse l'artefatto o di cosa stesse facendo Eidos. Ma mi sembra che tu hai invece un'idea bella chiara della situazione. Una piccola bugia bianca per spingervi a fare quello che doveva essere fatto. L'amico che un paio di voi hanno visto direbbe: like a clockwork. Non... Naya non si fida, cioè non sa cosa rispondergli, però è tipo... No, non mi sento esattamente la situazione di fare ciò che mi dici solo perché mi dici di farlo. Ho provato a essere gentile. Se non lo fai, passerò le maniere forti. Vi ricordo che voi siete esausti, mentre io sono al pieno delle forze. Ho il vantaggio ambientale e so tutto quello che sapete fare. Mentre voi di me non sapete un cazzo. Ok, ma puoi farci quello che vuoi. Ma se vuoi che io estragga l'artefatto da Ivan, è inutile minacciarmi. Lo posso anche estrarre dal corpo freddo del vostro amico. A quel punto Adone alza le mani, così, e dice... Facciamo quello che dice Devin. Io non mi fido di lui. Cioè? Ci ha lasciato da soli. No, ci ha mentito, non è che è una bugia bianca, ci ha mentito, ci ha portato lì. Non ci ha detto nulla di quello che dovevamo fare se non recuperare l'artefatto, non ci ha detto di come riuscire a sconfiggere il tizio. Su questo non lo sapevo. Tra l'altro, non credo l'abbiate sconfitto. Tu però hai detto che non gli avresti fatto del male. Pardon. Non saresti riuscito a fargli del male, allora eri consapevole di quello che sarebbe riuscito a fargli del male. Sapevo che questo genere di armi non gli fa niente. Lei ha chiamato New Didn't Share. Come fa a chiamare che è chiuso in casa, scusami? E boh, urli, cioè nel senso, se chiami qualcuno non penso che sia soundproof la casa. Cos'è che vuoi fare? Non ho capito. Se posso chiamare Kiel, cioè... Hai in mente quando la gente sotto casa tua e ti urla... Apri la finestra, cioè una roba del genere. Tipo, Kiel vieni qui. Poi tipo, è tornato Devin. Perché comunque anche loro non l'hanno più visto. Quando lo fa Naya non succede nulla. Cioè non sentite nessuna reazione dalla gente nella casa. Nessun rumore, nessun fruscio. Beh, Kiel era piuttosto wary di Ivan. Quindi insomma, non penso che... No, ma nel senso anche che... Cioè, Kiel era con noi, non sembrava saperne più di tanto. Più o meno. No, però alla fine è rimasta con Ren. Anche questo non lo sto, dicendo in character, scusate. È giusto per chiarire che anche Kiel non sapeva esattamente che fine avesse fatto Ivan. E che anche nel suo interesse... Cioè, Ivan, scusatemi, Devin... E neanche nel suo interesse sapere che Devin c'è ed è tornato. Ah, ok, e... sì, in quel senso. In quel senso, scusatemi, sì. E Naya chiede a Devin: perché hai detto di star cercando la verità quando non hai fatto altro che mentirci, a quanto pare? La verità è strettamente collegata, esatto, all'artefatto. Non hai risposto alla mia domanda. Sto cercando la verità per me stesso. E per un bene superiore. Suppongo. Ossia? Cioè, estirpare le erbacce. Che... Bene superiore, estirpare le erbacce. Chissà. Che è un po' fascio. Tu dici? Un po'. Sì. Un po'. Sì, sì, sì, sì. Lo è. Sentite, qui siamo in impasse, nel senso... Rischia di fare fuori Ivan, almeno... Rischia di fare fuori Ivan perché siamo in... siamo tutti malconci. Siamo tutti malconci, è vero. La macchina di cura non è stata fatta dismantled prima che ci potessimo curare. Okay, e sbaglio che uno è prosciugato di mana. Sì, non posso tirare neanche più un incantesimo. Sono praticamente tutti prosciugati di mano. Posso sparargli le fiamme? Of course. Deve rollare lui, perché per te è gratuito. Le tiri in una direzione a cazzo sul cortile. Giusto, cioè... Dimmi te se vuoi puntare, sì, sì, un punto specifico. Cioè, dove c'è la forchetta. Le punto all'albero, I guess. Ok, ce l'hai rollato davanti. Cioè, la direzione... La roba è... La direzione era quella, giusto? La forchetta è ferma qua. Non so se stai vedendo... Non sto vedendo. Ok. Siete sulla cosa sbagliata. Ok, l'ho visto, visto. Qua c'è la forchetta. Sarà dietro al muretto, okay, penso. Penso che dietro al muretto, ok, a questo punto. Dammi 5 secondi che non mi ricordo a memoria le statistiche dell'affare. Del cuore in fiamme. Ha un raggio di 5 metri, quindi devi avvicinarti entro... Cioè, così o anche di più. E sei fuori combattimento, quindi puoi muoverti liberamente. Mi avvicino e gli tiro una fiammata, I guess. Qua? O più avanti, più indietro? Un po' più indietro. Ok. Qua sei proprio... rollo io. Cazzo, devo fare 15. Non credo che fa... Non faccio 15. Mio figlio Devin prende... le devi rollare te. Rolla 2 di 6, scusami. 2 di 6, boia. Sono magico. Uno dei muretti, i muri prendono fuoco e non si fanno niente, cioè s'anneriscono un po'. Uno dei muretti invece viene proprio bruciato e rivela dietro di sé come se fosse un oggetto invisibile di Elden Ring. Devin, che prende alcuni danni, bestemmia, impreca fortemente e dice: ok, vogliamo farla con le cattive? Facciamolo con le cattive. L'illusione che lo rendeva indistinguibile dal muretto si toglie e rimane lui. Casta... È un po' lungo il suo turno, vi avviso. Casta idrochinesi e... Idrochinesis. Un liquido, un fluido nero, viene estratto dalla sua tasca, dal suo inventario. Credo abbia una borsa con delle boccette, robe del genere. Viene estratto e schizzato addosso a Ivan, ad Adone, a Erendor. 11. Cane. 30 celle, col cazzo. Sì, sì, sì, posso fare quello che voglio. E su tutti voi. Il liquido in sé non sembra avere nessun effetto. Potete rollare per evitarlo e sono difficoltà 15. Se volete. Quindi un di 10 più cosa? Dialettica, che è il giallo. Ad uno lo prende. Hai detto di 10? Sì. Per ora questa cosa qua non fa nulla. Non è evasione. Naya rola di nuovo. Naya, scusa Bianni, ci sono fuori dal range o no? Se sei uscito fuori dalla casa, no. Cioè, non c'è un punto fuori dalla casa che sia fuori range. Ok. E niente, solo Naya riesce ad evitarlo. Comunque era molto difficile da evitare. Ok. E voi altri quattro siete affetti da questa cosa. Vi sembra di vederci meno. Per ora l'unico effetto è questo. E questa era un'azione base. Estrae un'arma, che è quella su cui stava lavorando di recente, e spara a Ivan. Ho fatto 12, perché è più 10. E tu hai 9, quindi ti prende nonostante il 2. Che io muoio, cioè. a scelta tra usare la memoria o fare la fine di Zan Zan. Ah, usa la memoria. Io non posso usare, non posso usare help per fare, il tirare il test, giusto? Help non è per puoi fargli rifare il test per prendere il malus, quello sì. E sì, dai. E devi rirollare. Max damage comunque, che sfiga. Oh. Sempre devo di 10. Curarmi. Ma fra ah no, scusami, niente. C'è delle reazioni anche tu? No, no, no, no. L'hai rollato, Gin? Che non vedo. Scusa, no. Devi rifare un 10. Ritirare un di 10. No. Fa peggio di peggio prima. Memoria. Memoria. Cazzo, non c'ho la playlist pronta, ma mi inventerò qualcosa. Quando giocate la memoria, io ve la tolgo e succede una bellissima cosa, cioè che rivediamo un pezzetto del vostro passato. Nel caso di Ivan, il pezzetto del passato in questione è il tuo matrimonio. Scusami un secondo, lo vediamo tutti il coso o solo Ivan? Cioè tipo flashback prima di morire? Il flashback è solo per Ivan, quello che succede dopo lo vedete tutti. Ok. Cerco di non farlo durare eccessivamente, ma l'idea è che quando vi siete sposati, tu e Tea, avete fatto una cosa piccola con i vostri amici, i vostri 5-6 amici che avete molto close della vostra zona. Avete fatto il matrimonio col rito di Vama, la dea dell'amore, perché lei ci teneva tantissimo a fare questa cosa. Quindi non potevate permettervi di comprare cose fancy, andare in posti eleganti. Avete cercato un santuarietto piccolo piccolo, facile da raggiungere, e vi siete messi un po' alla buona a farlo fra di voi. Lo Stato lo ritiene come valido anche se viene fatto da voi, perché appunto è un rito antichissimo. E la versione breve di questa cosa è che c'è un altare quadrato. Su ognuna delle quattro facce di questo altare c'è una capra, le cui corna formano un cuore, e voi dovete sacrificare un oggetto di valore sulla cima di questo altare alla dea Vama, la dea dell'amore. Nel vostro caso i vostri amici avevano fatto dei sacrifici, avevano comprato due effigie di metallo con una minima percentuale d'oro. Uno alla volta, seguendo tutte le istruzioni per questo genere di cose, siete arrivati all'altare, li avete posti sopra, si sono incendiati grazie alla magia dell'altare. E poi vi siete fatti le promesse, i voti, giurandovi fedeltà per sempre, finché morte non vi separi, insomma, col rito che preferite, perché appunto Vama era la divinità dell'amore, quindi non era importante la forma, ma la sostanza. E alla fine vi siete scambiati gli anelli. Di nuovo, non avevate i soldi per comprare robe fancy, in realtà si fanno delle catenelle d'oro, chi non se le può permettere si scambia degli anelli. E Ivan aveva scelto un anello mandato di padre in figlio nella sua famiglia, e avevi donato questo a lei, e lei aveva fatto lo stesso, ti aveva donato un anello che era di grande importanza nella sua famiglia, un anello molto intricato, come se fosse fatto di radici, senza una pietra preziosa, e sul quale aveva fatto incidere le vostre iniziali, e tuttora porti questo anello al dito. Qua il flashback, se lo vuoi giocare meglio ci risentiamo. La segnatempo che si era riavvolta per mostrare questa scena riarriva alla giornata di oggi, 5 ottobre 1622. L'anello si spacca e la tua mano viene avvolta da una miriade di radici, ok? E hai il controllo completo su questa cosa. E si espande, si impianta nel terreno, crescono escrescenze più fungine che a forma di pianta, quindi quelle lame che escono dagli alberi, eccetera, e sei completamente avvolto da questa roba. E puoi dirmi quello che vuoi fare. Riesco a controllare che le radici degli alberi per caso lo possono prendere? Fare quello che vuoi. Voglio prenderlo. Lo afferrano. Gli lo sollevano. Lasciando cadere a terra l'arma da fuoco che aveva con sé e il cui raggio si è schiantato contro questa protezione di radici. Vai, cosa vuoi fare? Prendo la pistola. Gliela punto. Mentre è crocifisso lì dagli alberi. Sì. Non è spaventato, è più incazzato. E ti dice: sapevo che non ci si può fidare di voi. Chat. Due shooting. Fai quello che vuoi, è la tua memoria. Oh, mi ha appena preso la memoria sul mio matrimonio. È la tua scelta, Jin. Lo prendo pugno. Ok. Sanguina molto facilmente. Le sue ossa si spaccano facilmente. Lo prendo pugno. La sua faccia diventa in breve una maschera di sangue. Fino a quasi cambiargli i connotati. Mi stoppo prima che muoia. Basta, cioè. Basta. Le radici, che finora hanno avuto sulle quali hai avuto il controllo completo, sembravano volerti proteggere, scavano all'interno di te e tirano fuori l'artefatto. Vedi che le radici bruciano a contatto con l'artefatto, come farebbe una pianta esposta alle fiamme, e creano una copertura di alberi inceneriti, di erba bruciata, che copre completamente l'artefatto, formando una palla di sterpi anneriti. E viene lasciata a terra questa palla. Non hai subito danni dall'ultimo attacco, quindi hai ancora 6 punti vita, 5 punti vita, pardon. Devin è fuori combattimento, è KO. Le radici che hai evocato sono rimaste attive. E per ancora qualche minuto hai il controllo sulle piante. Tra l'altro, Erin, Doradon e Gideon non hanno visto un cazzo perché sono accecati dal fluido. No, porco Dio. Hanno solo sentito il tutto. Mentre Naya ha visto ogni singola cosa. Dai, è così. Scusami, viene giusto per sapere. Riesco a vedere almeno una... Cioè, la cella successiva alla mia o neanche lì? Cioè, vedo solo dove sono io. Vedi delle macchie. Cioè, vedi veramente molto annebbiato. Bene così. E questa cosa dura... Adone. Cosa? Mi immagino Adone che cerca di vedere... What's going on? È modo per togliersi sta roba o... E va via col tempo. O con un expel evil, una di quelle spell lì. O uno di una panacea. Ci sono un botto di oggetti che tolgono i malus. Altrimenti passa dopo. Dammi un secondo che ce l'ho segnato. Sono andato troppo avanti. Di 2 ogni turno. 2 arrivare a 15. Sono 7x6, 42 secondi dura. Ok. E i turni completamente sono già finiti, quindi... Sì, allora diciamo che Ivan sta cosa qua si è preso il suo bel tempo per farla, quindi quando ha finito voi ci rivedete. È okay. Proprio il Naya momento... corre verso... Scusami, vai. È proprio il momento in cui le radici lo hanno protetto, che non avete visto. Mm-hmm. Naya corre verso Ivan per vedere se sta bene, perché ha visto appena visto una cosa che... l'ennesima cosa che non può mai succedere. E le ferite che aveva prima non sono guarite, però appunto è circondato da queste piante che nei suoi confronti quantomeno sembrano amichevoli. Io mi tolgo la cappa, cerco di prendere il roviglio con la cappa e no. Sto tu. Cosa? Aspetta, lo prendi, se lo do a te. È arrivato lui. Aspetta, arrivi te, vuoi, vuoi fare il figo. No, io lo prendo e te lo do in mano. Ok. Okay, se preferisci, arrivo lì, mi tolgo la cappa, la tendo. Ok, per capirci, l'artefatto è dentro un groviglio di erba incenerita dentro un mantello. Esatto, okay. Per essere sicuri che non venga, che non assorba nessuno. E lo stai tenendo coi guanti, che è core item della build. Esatto. Ok, scusate. Naya ti chiede a te, Ivan, e ti dice, sei sicuro di volerlo dare a Erindor, perché era propenso a lasciarlo a Devin. Adesso Devin non penso che ci possa più fare nulla. Erindor, lo dico un po' sottovoce a te, penso che Erindor possiamo offrirgli qualcosa in modo che anche ci stia dietro. Come dice questa cosa, io zitto, fatto qua. Ma non ti senti. No, mi muovo verso Devin e lo tocco. Mi fai stealth. Esatto, ok. È nascondersi. E prova a battermi. Ti becco. Allora, ti do la difficoltà prima che rolli. Quant'è? La difficoltà è il percepire di Ivan. Quindi devi superare 6, cioè 7, 8, 9, 10 superi, 6 o meno fallisci. No. 30%. No! Ivan t'ha visto. Per la Codopoli. Ti prendo per l'orecchio e ti prendo via il coso. Puoi anche usare le radici, c'è ancora... No, lo prendo... Ok, normalmente. Lo interrompo. Ero curioso del fucile, onestamente, però vabbè. Eri curioso del fucile mentre portavi a Devin l'artefatto? Devin è morto, è tutto disfatto. Non è morto! Ma ce l'ho io la pistola. È knocked out. No. Ah sì? Ce l'hai tu? Sì. Hai detto che l'hai preso a pugni, come fai a prenderla a pugni con la pistola? Scusami. Gli ha tolto la pistola e poi l'ha menato. Però non ce l'ha più. No. Come fa? Gli ho tolto la pistola nelle mani. Ok, vabbè. Okay. Gli ho tolto la pistola, gliel'ho intimato e poi mi sono messa la pistola e ho preso il pugno. Allora, vabbè, sono un po' a weird in questo modo. Vabbè. Come non devi. Quello che stavi facendo tu era prendere l'artefatto e portarlo da Devin, giusto? Cioè, no, quello che abbiamo visto. Io volevo fare zitto 4-4 e sgriffare la pistola, però... Ah, ok. Allora te la devi meritare la pistola adesso. Va bene. Devin è autofit? Cioè, com'è? È svenuto, ok. E le radici sembrano che l'abbiano bloccato, cioè nel senso che domani, se ritorniamo, è ancora qua. Sì. Perché lo vuoi lasciare fuori, scusami. Naya si gira verso gli altri e indica le radici e dice... Penso che questo sia il modo migliore per tenerlo sotto controllo. Ma scusa, perché non lo possiamo imbavagliare e metterlo lì in sala e aspettare perché domani? Perché penso che qualsiasi cosa facciamo noi non sarà mai forte quanto le cazzo di radici che sono appena cresciute dal pavimento per bloccarlo. Può controllarlo, no? Le radici che sono uscite dal pavimento. Ma Ivan ha il controllo in questo momento, tecnicamente. Ma tu non lo sai questo. Ah, scusate, vabbè. Io direi che lo lasciamo qui. Io lo lascerei così, cioè... Gli prendiamo un pennarello e gli scriviamo Do not trust him sulla fronte. Bellino. Do not believe his lies. Traitor. Liar. Bellissimo. Mi piace un voto sta cosa. Adesso ci vediamo a Granic. Sì, sì, sì. No, no, anche prima ci vedete, cioè da quando non abbiamo iniziato a parlare ci vedevate già. L'altra cosa che vi volevo dire, no, che voglio dire a Ivan, è che stai avendo non delle visioni, ma come se ti fossero tornati dei ricordi alla mente, solo che sono cose che tu non hai mai visto prima, cioè sono ricordi non tuoi, ok? E te li mando man mano. Diciamo che Ivan li metabolizza durante la notte, cioè mentre dorme sogna ste cose che ti dirò, grazie alla memoria che hai giocato, eccetera. Ok, volevo sapere una cosa. Vai. Non mi ricordo tutto il matrimonio, non mi ricordo. No, no, ti ricordi abbiamo... tutto, hai solo rivissuto il matrimonio per fare sta cosa qua, non è che ti ho cancellato le memorie. Sì, le memorie devi interpretarle in questo modo. Cioè come, ah, questo evento della mia vita mi ha permesso di fare questa cosa. E tra l'altro ora tappiamo sta cosa e ti si rigenera l'anello che si era rotto. Però un po' meno lucido, un po' meno fancy. Ha usato il suo uso. Sì, esattamente. Tua moglie te l'avrebbe anche brutta a dire sta cosa, però è stato carino da parte sua non dire, vabbè. Altra cosa di cui devo parlare con mia moglie. E vi ritornate in casa? Non ho capito cosa volete fare. Allora, quando ci avevi detto di questa casa, mi pare che avevi detto che ce n'erano altre di case. Sì, non vicinissime, ma ce n'erano altre. Sono sempre recintate nello stesso modo, vengono usate per queste cose. Sono case di proprietà la maggior parte. Le due che non erano di nessuno erano questa qua, che era probabilmente di qualcuno che è stato fatto trasferire finché ci stavate voi, e l'ultima che era un rudere, era abbandonata. Le altre sono tutte di contadini, di gente che vive lì. Cioè si vede che sono case con della gente che ci sta dentro. E probabilmente non hanno dei medikit. No, probabilmente ce li hanno invece. Possiamo provare a chiedere, tanto il medkit lo azioniamo noi con le nostre mani. Chiedere se... Tecnicamente diventiamo fuggitivi appena lasciamo questa zona. Adone si è avvicinato a voi intanto e dice... Cosa avete intenzione di fare con l'artefatto, quindi? Portarlo comunque alla principessa? Io non mi fido. Non senti più, ne vedi più la cosa che sentivi e vedevi prima, Ivan? The issue è che se non portiamo l'artefatto, se non facciamo la cosa che ci ha detto, ce lo inimichiamo. Nel senso che se c'è qualche altra entità, abbiamo comunque un conto sospeso con lui. Dem. Tu hai un conto in sospeso con lui. Noi abbiamo un conto in sospeso. Scusa, sta laggando malissimo. Io vado bene. Eddie... No, Eddie, sentivo parlare un Ginaro. No, parla. Ah, no, ok, scusa. Allora sento io laggare. Può essere. Okay. E comunque... Dice... Sto scrivendo qualcosa. Rispetto ad adesso lui c'è neutrale? No. Cosa che eticamente mi manca, mi so. Hai comunque dire che hai comunque fatto un patto con un'entità con cui non conosciamo e hai corso un enorme rischio. E onestamente io andrei da mia moglie. Naya dice a tutti quanti, qualsiasi cosa sia o fosse, ha salvato Ren e ha dato a Ivan il modo per salvare Ren. Sì, ma in cambio di qualcosa. Se quella che sta colpendo, che ha colpito Ren, che ha colpito Kael, che ha colpito un sacco di gente, è effettivamente una tipologia di epidemia e questa entità ha la cura per questa cosa. Secondo me è nostro dovere anche capire come. Ah, la Stasi Ringa che era dove era rimasta, tra l'altro? La... quella dove... che ha curato Ren. Quella pan dimensionale. Pesa 40 kg. Esatto, quindi tra l'altro... cioè... sì, l'avrete lasciata... sì, sì, l'avete lasciata in casa realisticamente. No, perché mi domandavo che se è successo adesso che non è più posseduto sarebbe cambiato qualcosa. Però è un oggetto effettivo o è un artefatto simile all'artefatto? Abbiamo... allora, non avete fatto un'analisi dettagliata per mancanza di tempo e conoscenze, ma non è magico. Cioè, Naya, visto che non è né cursed, nessuno di voi percepisce della magia. Non è alchemico, perché questo l'avresti percepito tu. In qualche modo sembra essere... un oggetto normale che ignora evidentemente almeno un paio di regole della fisica per come la conoscete voi. È come se fosse un barattolo pieno di germi, tipo un barattolo pieno di calcoli renali. Sì, e che è stato in grado di estrarli senza bucare niente, cioè senza scavare all'interno del calcolo del rene. Lapsus. Secondo me dovremmo prima di tutto avvisare anche che Yael e Ren della situazione qui con Devin. Mi sembra giusto. Sì, possiamo andare tornare in casa. Perfetto. Qual era l'opinione di Yael su Devin? Che se la facevano? No. No? No, no, no. Allora, Ivar potrebbe avere benissimo questa opinione, io non mi sento di contraddirlo. Sono non è mai stato detto in modo penso ufficiale. Che tutti cuccano tutti, non lo so, io... Prima di entrare, Adone vi ferma, cioè, prima di tornare da loro, possiamo decidere di cosa fare con questo e tira sul feto. Io lo ammazzerei, visto che Devin diceva che non è morto. Sono d'accordo, ma credo che sia meglio che lo faccia Naya, magari con la sua magia. Ma perché? E Adone ti spiega. Vai, abortisci. Sei più porco! Sei un demone, da quello che ho compreso. Già il fatto che sia un demone mi lascia perplesso e confuso, ma... la cosa migliore forse è quella di provare a utilizzare la magia... è la magia ontica quella di... teurgia. Ok, meglio utilizzare teurgia che altri metodi. Non so se il fuoco lo danneggerebbe o... Naya ti ferma e ti dice, ho capito, puoi lasciare il pavimento. Lasciami il ferro. Dio santo. Dio cane. Lo mette tipo qua. Questo, cioè, te lo mette lì davanti. Lo mette qui. Dio porco. Dio allora. Dio cane. Se lo vuoi fare ti chiedo solo di rollarmi i danni. Che un sono? Po' sì, perché comunque da quando lo c'ho sta cosa accanto che mi dice che è malvagia. E 2 di 8 più 6 tutto per 2. Porco Dio. Me lo lanci così come ti ho detto. Te lo scrivo. Sì, dammi solo un secondo. Perché grazie. Ci servono anche le parentesi per farlo funzionare. E te lo scrivo Dio su Discord e poi lo copi. Puoi? Va bene, sì, va bene. Perché su Roll20 non posso scriverlo. È dispero tu sia contento. Io, aspetta, mi trattengo dal commentare. Vedo l'ora. Che poco. Avviso di ser... 26 danni. Bene, decente. Subottimale in realtà, poteva fare di più. È un peso. No, ok. Intanto chiedo a uno di noi di prepararsi perché a breve dovrà cambiare nickname sul Discord. Mm-hmm. E non hai mai visto un fulmine di Expel Evil con così tanta potenza. Cioè, normalmente tu quando casti Expel Evil lo fai con l'idea di fermati, no, non fare le cose cattive. Questo è proprio the divine wrath coming down. Ok. E dopo che cala questa cosa dal cielo, non rimane niente. Che porco. E ho bisogno che tutti i presenti mi rollino un di 10. Ah, per recepire. Per recepire. Tanto segno. Grande. No, dai, Adone c'aveva ancora lo schifo negli occhi. Chiaramente. Ah, ok. C'è l'occhio malconcio. Vabbè, però io c'ho un più 2 almeno. 6. Io non so quanto so. Hai fatto 9 sul dado? Sì. Gideon. No, io ho fatto 6 più 3 percepire. Sì, sì, no, dico. Ah, okay. Gina. Percepire c'hai più 1. Hai fatto 10. Il più alto è 10? Sì, ok, allora solo Ivan non ne hai la certezza di sta cosa che ti sto per dire, diciamo 50-50. Non sai se hai blinkato, cioè se hai chiuso gli occhi per un attimo, oppure se è successo davvero, ma ti è sembrato che quando il fulmine l'ha colpito, il feto... Il peto abbia fatto una roba... non so come spiegartela. Abbia glitchato per un istante prima di sparire. Abbia fatto dei movimenti impossibili, come se le parti del suo corpo fossero nel fondo del mare e qualcuno avesse colpito la superficie. E quindi tu lo vedevi un po' sfarsi prima che venisse colpito dal fulmine. Ti ho detto sta cosa qua in passato. E rientrate in casa? Ok. Ma il stoffetto è rimasto lì polverizzato? Non è rimasto niente. No, è ok. Cioè non c'è proprio nulla. E mentre voi entrate in casa e mi direte poi cosa volete fare, cambio un attimo scena. Lieto! Oh. Ci siamo, esatto. È una fredda notte dei primi di ottobre. Oclica ha un clima che non è esattamente il migliore. È freddo, è antipatico, però ci sei abituato. Non è la prima notte che passi in questa strada a cercare quello che stai cercando. Ma è la prima volta che non ci sono soldati dell'esercito. Ti sei nascosto, forse hai origliato. O forse semplicemente hai dell'insider trading, delle conoscenze extra, per cui sai che il grosso dell'esercito è stato teletrasportato d'emergenza a Singida a risolvere un'altra problematica più impellente. Sai anche che i teletrasporti non sono esattamente una roba cheap, una roba che si può fare e basta, e che quindi ci vorrà molto tempo e molti soldi prima che possano ritornare qua. E che quindi per almeno stasera, per almeno alcune ore, questo luogo è senza forze dell'ordine. Molto bene. Vuoi dirmi qualcosa o ti descrivo io cosa vedi? Vai, vai. Ok. Hai un'idea chiara della casa che ti è stata indicata. Non hai un'idea chiara delle persone che ci sono. E fino ad ora, da lontano, l'hai vista come uneventful, cioè un posto con una barriera intorno, ma per il resto era una casa come un'altra. Avvicinandoti questa sera, noti che c'è qualcosa di strano. Appeso, crocifisso, tra due muretti, e con innumerevoli radici, piante, rami, insomma, cose del genere, botaniche, entità botaniche, c'è una persona col volto completamente rovinato, sanguinante, senza numerosi denti, con la testa china, svenuto, non morto, sta respirando. Ed è proprio in faccia alla casa che avevi adocchiato. Riesco a svegliarlo, a parlarci, o è proprio andato? Se mi avvicino e tipo lo scuoto, mi dice qualcosa? Un buon presentimento, guarda, questa cosa. E... quindi lui non ha scritto in fronte niente di particolare. Ha scritto okay. in fronte una frase che vorrei che Ivan dicesse ad alta voce. Cos'è che avevamo deciso di scrivere? Liar, non fidarti. Liar, tipo, non fidarti di me. Ma non quanto bene è scritto, tra l'altro, visto che Ivan ha imparato. Non l'ho scritto io. Scritto tutto il mondo. Ok, quindi questo c'è scritto liar in fronte. Sì. Ok, a me non... È sufficientemente strano direi che non lo tiro giù dai... Perfetto. Dalla situazione in cui è, cioè questo rimane lì per me. Non è un... Dall'altro lato c'è una barriera che è, come si dice, ingloba la casa. Riesco a... Se mi avvicino... Posso provare ad entrare? O comunque... Fai degli esperimenti più che altro. Picchietti qua e là. Io solino, il bastoncino, ci appoggio il dito. In pochi secondi capisci che tipo di barriera è. E noti soprattutto che è già stata indebolita da qualcuno. Per cui disattivarla del tutto è un gioco da ragazzi. E allora la tiro giù. Ci vorranno un paio di minuti. Cambio di scena. Voi non avete sentito niente di tutto questo, ovviamente. Sì. Siete all'interno della casa, siete ritornati all'interno della casa, Carl è ancora in un'altra stanza, Ren e Kiel sono nella camera dove l'avete lasciate. Volevate parlare con loro due tanto, no? Sì. Okay. Sì. E Naya si avvicina verso Kiel e le dice... quando entrate, Kiel è sdraiata per terra, appoggiata al letto, con una mano sulla fronte. E Ren invece è nel chill, adesso non sta più piangendo, sta meglio. Cosa le è successo? Ha avuto un mancamento, credo io. Non so cosa le sia successo. Ma così all'improvviso, senza... Sì, ma sto bene, non ti preoccupare. È stato come se qualcuno mi spegnesse la luce per un istante. Non saprei come poterti aiutare in questa situazione. Avete risolto? C'è più o meno è un po' complicato. Abbiamo trovato Devin. Per quel poco che lo conosco mi verrebbe da dire che non è in sé. Cosa intendi dire? Ci ha appena minacciato tutti e stava per sparare a Ivan. Cosa voleva? Se Ivan non... Diciamo che ci ha usato per i suoi fini. E voleva... Cioè, voleva usarci praticamente, voleva usare la nostra vita per i suoi fini. Sa esattamente... Sapeva esattamente cos'era l'artefatto e cosa stavo mandando a fare. Ho l'impressione di non ricordarmi bene gli ultimi avvenimenti. Ma Devin è sempre stato machiavellico. Il tipo di persona che parla a un altro per farti dire le cose. Il tipo di persona che si presenta prima al lavoro per preparare qualche trappola. Quando è successo che si è sentita male? Cioè, chiedo magari a Ren quando ha avuto il suo mancamento. Avete visto per caso un fulmine prima? Ci ho fatto caso. Eravate usciti da 5-6 minuti, ho sentito degli spari e poco dopo è svenuta per un attimo. Non avevi detto che non dovrebbe essere possibile per una... persone nelle tue condizioni? Credo di aver detto tante cose di recente e credo di non averne dette tante di sensate. Cosa significa? È come se i miei ingranaggi stessero girando in modo strano. posso fare un check per vedere se c'è qualcosa che riesco a percepire di strano? Non c'è nessuna corsa, non c'è niente di biologico che non funzioni. Oltre al fatto che il suo corpo è per il 78% meccanico. Però si ricorda di averci debellato i contratti. Sciolto i contratti. Sì. Sì, ricordo di aver creato il sigillo, ricordo delle visioni. Si alza in piedi, si mette a posto i vestiti, se li, proprio come se li stesse pulendo dalla polvere, che non hanno addosso. Dice, sì, sto meglio. È stato solo un piccolo mancamento. Per quanto riguarda Devin, credo avesse effettivamente un piano. Non ne so i dettagli. Devin non è un uomo cattivo, però ha delle idee che potrei definire non condivisibili da tutti. Immagino che il suo scopo era raggiungere, completare uno dei suoi piani. Di cosa cazzo stai parlando? Che gli all'estirpare le erbacce. Devin è stato vittima di un grave crimine da ragazzo. Uno Shunar ha fatto molto male a sua madre in sua presenza. E questa cosa l'ho assegnato, tant'è che sì, potremmo definirlo xenofobo. Ed è dell'idea che tutti quelli che hanno a che fare con i mostri diventino simili a loro. Ma non pensavo che avrebbe mai fatto qualcosa di drastico in questo senso. Avete con voi l'artefatto? Lo faccio vedere. Sì, adesso l'abbiamo impacchettato per me, per evitare che... No, Erindor, ce l'ho io l'artefatto, non ce l'hai più te. No, perché... Quanto è strana che Yen da 1 a 10 rispetto a prima? 8.5-9. Cioè, nel senso, per quello che conosco che Yen è strana adesso, cioè si comporta in modo strano, giusto? Parla in maniera robotica. Urca. Lei glielo fa notare, le dice che si sta comportando in modo molto erratico rispetto al solito. Forse non mi sono ancora ripresa dal mancamento di prima. Ren, ti dispiacerebbe lasciarci un attimo da soli? Magari... Puoi dare un'occhiata a Carl, che da un po' che non lo vedo? Ho una domanda, non per voi. Dottor Lieto, cosa cazzo vuoi fare? Io te l'ho scritto cosa voglio fare. Ok, descrivilo agli altri. La porta è chiusa. La porta è saltata in aria. Sentite tutti un'esplosione che interrompe questo momento idilliaco. E la porta di casa, non la porta di questa stanza. La porta di casa, la porta all'ingresso principale è chiuso. Quindi è la settima esplosione della serata. Infatti. E vai. Aspetta, con quella di Erindon siamo a 8. Sì. E... siete tutti scossi per sta cosa, tranne che Yel, che è tipo... Ah! Ancora, another one. Ren impugna un'arma da fuoco che era rimasta nella stanza, ora non si sa di chi sia, e fa strada lei, cioè con un calcio apre la porta, e punta la pistola al nuovo ospite. Quindi il primo personaggio che incontri è Ren. A pistola sfoderata proprio. Sì, è proprio. Chi sei? Io sto cercando una persona. E basta la pistola, non c'è bisogno. La porta era chiusa. Possiamo avere una descrizione fisica? Aspetta. Visto che credo siamo... Ren guarda gli altri. Guarda il nuovo arrivato. Quando Ren si distrae, tira fuori la pistola gliela punta, tipo. Cazzo! E Ren lascia andare la pistola e facendo agli altri di avvicinarsi. No, volevo fare il coso con le pistole. Ah, il pistolero. No, no, Lo stanno alla messicana. Sì. Pardon. Bello. E allora, uscite tutti lentamente dalla stanza per conoscere il nuovo arrivato. E Tanto ormai. sì, e Ika, puoi descriverlo. È un ragazzo sufficientemente giovane per quello che potete vedere. È vestito molto edgy anche per l'epoca. C'ha gli stivaletti neri, c'ha un'armatura bella fichetta e c'ha un cappuccio nero avvolto intorno alla faccia che gli fa anche da mantello. L'unica cosa che lo adorna di colore diverso dal nero è una spilla dorata, abbastanza grande e molto lucente. Quasi ZH magica, scritto sopra. quasi magicamente lucente. In mano ha una pistola magica, Identica a quella di Ren. esatto. Standard. È alto 1,90 m e sembra abbastanza grande come persona, non a livello di Zan Zan, però. Io sto cercando una persona qua. Viene al nome di. Si fuga un attimo in tasca, prende il foglietto. Zan Zan. Ren sgrana gli occhi. Come? È un po' che lo cerco, è un po' che sono sulle sue tracce, ma mi è sfuggito in questo tempo. Sono stato alla centrale, poi è Zan successo un Zan è casino. morto. Ren ti guarda tipo. Ah. C'è modo e Ah, questo modo! non ha senso girare attorno alla verità. Non so chi tu sia, ma in verità c'ha un ideatore, però non lo dice ovviamente. Cioè, mi spiace dirtelo, ma Zan Zan è morto. Capisco. Questo è strano. In fondo era tipo la pistola. Molto probabilmente era mio padre. Ren è andata. Lo Ren è sapevo. proprio tipo. Girare così, tipo. Come? Ma cazzo, si sente in colpa! No, ho saputo il suo nome solo di recente, è passata una settimana scarsa praticamente. Da quando l'ho saputo mi sono messo sulle sue tracce. Più che altro perché ero curioso e volevo fargli un paio di domande. Non è il paio di domande, questo è la descrizione del personaggio, simpatiche. È un paio di domande tipo. Perché sono rimasto da solo con quella che è mia madre, ma vabbè. Le domande includevano un'arma da fuoco. Eridor, mi Domanda. puoi fare un D10? Oddio, rischio di conoscerlo sto qui, Sì. no. Purtroppo io Naya, mi puoi fare un D10? È un altro della corona sto qua. 8. Oltre a Zanzan, i tratti somatici di Zanzan, nascosti dal fatto che l'altro genitore, diciamo, probabilmente è più chiaro, di pelle, di tratti, Non viene dall'Africa, ma non viene dalla. dall'occidentale. No. I suoi occhi castani, color nocciola, tu li hai già visti. Cioè. Tu, Naya, ci stai dicendo. Sì, Naya ha già visto i Sì. suoi occhi. È una persona che tu hai visto nella tua vita. Ok? Un'altra cosa sono i capelli. Quel colore di capello. È lo stesso delle tinte che si possono acquistare in tutto lo scirocco. Ed è la stessa identica tonalità. Oddio, mi hai detto tinta, lo sto iniziando a fare io, però il doppio, però ho paura. È già. Aspetta, hai capelli castani, cioè Oh no. è Occhi un nocciola. tizio. È un tizio, capelli castani, occhi nocciola. Sì, E i finocchi li hai già visti. Ho capito. È una persona che conosci, che ha quegli occhi. Gli vorresti tantissimo dire tu hai gli occhi di tua madre, ma in questo momento esatto forse non ti ricordi o non riesci quite a completare il puzzle. Dammi un secondo. Sì, sì, sì, tanto è Naya che ci pensa a sta cosa qua. Voi andate avanti. Fra, no okay. Fucking way. Guardiamo l'album della scuola. Ti chiedo una cosa. Cioè, so che è Rolby questo, ma quanto sta dicendo la verità secondo me? Puoi fare un tiro di mentire? Non lo so, posso farlo, altrimenti vai. Sto così. Rolla. Magari l'hai chiamato. Quindi... Non è detto, perché hai rapporti hai con tua madre? Me lo stai chiedendo? Eh sì, se te lo sto chiedendo. Io nonostante l'uno ho avuto mezzo flash. In mezzo alla stazza. Tipo... È buona, sta cercando un nuovo marito. Vuoi un papà? Onestamente, hai detto che non... perché ti ha lasciato con tua madre a questo punto. Cioè... Onesto. Che ce l'avevo visto. Io a mia madre la vedo una volta al mese, se va bene. È sempre in giro per lavoro e da ragazzino sono cresciuto con la balia, o comunque il maggiordomo. E... Mia madre ci ha sempre tenuto a farmi sapere che non sono stato né voluto né desiderato e che se potevo starmene zitto nell'angolino comunque era meglio. Arriva Kayel. Mi sposti un secondo? No, tra un secondo, aspetti un minuto. va bene. Mentre dite sta cosa, sbuca dalla porta Kayel muovendosi in modo tentennante e dice: chi è l'intruso? E Lieto vede una persona che ha questa parte di carne, un ingranaggio in fronte e il resto tutto meccanico. Tutto il resto del corpo meccanico, la mano è completamente meccanica, eccetera. Vado su con Rox intanto che voi decidete cosa fare. Dimmi. Io ti giuro che non riesco a trovare la parte dei miei appunti, ma... O... Perché... Allora, la cosa degli occhi castani... O era Ponoe o era Kayel, una delle due, ti giuro su Dio che non riesco a trovare la parte, so che l'ho scritto da qualche parte, ma non riesco a capire se sono pazza. Posso dirti, hai fatto 8, hai più 0 a questo genere di stronzate perché Naya non è bravo, quindi io direi che hai nailed down to 2 names, quindi ci sta secondo me, va bene così. Ti scoccia? Okay, va bene. Cioè no, è coerente con Naya. Un po' rosico però ci sta. No, aspetta, la cosa delle tinte. Sì. Intendevi quella che avevo visto sulla testa di Ponoe? Il colore potrebbe essere quello. Quindi è cioè, ha i capelli tinti di un colore naturale? Ponoe aveva i capelli tinti di un colore naturale. Questo ragazzo sì. Ha i capelli naturalmente di quel colore lì. Ok, va bene. Che è proprio una shade di marrone particolare. Ok, va bene. Andiamo di sotto. Fatto male. È andato a prendere le sigarette. Sì, ma io sto facendo dei 2 più 2 che il mio personaggio non può fare, non è giusto. Mi spiace da morire, Rick. Non te lo meritavi di fare 1. Gioca la memoria per ribaltarlo. Siamo al momento giusto. No. Okay, scusa, dove vieni? Cioè... Scusa, volevo prima la reazione di Lieto a Kayel, poi... La reazione di Lieto è quella di... Che cazzo è quell'affare? Cioè... Lei è che... Non sta guardando quelli normali di voi, tipo... È una persona, non è un affare, non è un oggetto. A casa mia le persone non c'hanno gli ingranaggi in testa, poi... Questa non è casa tua, infatti. Ci avrei da ridire, ma comunque... È casa tua questa villa? La villa no. Vabbè... Sta dando dell'immigrato, se non l'avessi capito. Ah, grazie. Ho pezzo di merda. Scusa, la smetto. Villa no, ma mi sembra di essere l'unico, vero? Del loco. Ivan è di Oclica. Ivan è di Oclica. scusi lei. Quindi questo qua è di Occhio. C'ha l'accento del posto, sì. Cioè è senza accento, però quando parla la lingua comune è coerente con come parlano la lingua ad Occhio. Quindi... Come sei arrivato qui? È stato... Devo essere sincero, siete una spina nel cuore. No, è stato sufficientemente difficile. Quando ho saputo del nome di mio padre, Zanzan, mi sono messo subito alla sua ricerca e tramite qualche contatto, la frase rimane vaga. Vaga. Ho saputo che c'era una persona con questo nome che, come saprete voi, non è esattamente del luogo. Che stava lavorando alla centrale e ho provato a presentarmi per vedere di conoscere di conoscerlo, ma quando sono arrivato la centrale era già stata chiusa e non mi hanno fatto entrare, nonostante io sia uno studente molto importante comunque, no? Niente. Successivamente ho provato a rintracciarlo e ci sono quasi riuscito, se non fosse stato che era chiuso dentro una cattedrale nella quale non sono riuscito ad entrare per qualche misterioso motivo. Tipo le barre d'acciaio gigantesche all'esterno. E guardate che c'è uno che batteva sulle barre da fuori, eccolo io, quello. Erano Maria e Lieto. Scusa. Ah, ci sta. Sto immaginando il flashback con lui. Let me in! E dopo ho dovuto corrompere un po' qualche guardia e un po' ho sentito una mia vecchia conoscenza. Una persona che studiava nella solita università dove stavo io, che adesso è... nelle zone alte delle guardie ad Occhio, quindi mi ha dato una mano, wink wink, nel rintracciarvi, però la barriera era aperta e comunque non sono riuscito ad entrare fino adesso. È merito mio se la barriera è indebolita, dice la persona meccanica. Grazie. Hai fatto metà del lavoro, come ti chiami? Mi chiamano K.L. Ingranaggio. Bello. E parlando di nomi, tu saresti? Io sono Lieto. Lieto Cadorna. Ma vai a cagare! questa deve rimanere registrata. Ok, sono tranquillo. Ren dice, non è un nome di queste parti. No, io sono qua per motivi di studio, non sono nato qua. No, ma prima di essere immigrato, pezzo di merda! Questo lo dice Eddie, il nonatone. Sempre più immigrato di me. Mi arrampico in immigrato. Oh no, questi twink che si arrampicano. Posso dire che Nai è flabbergasted dalla situazione? Cioè, appena fulminato un feto... Abbiamo legato con i cavi, con le radici Devin, che Yel sta avendo una sincope e arriva il allegedly figlio di Zanzan 5 minuti dopo che è morto. E abbiamo ancora in tutto questo l'artefatto di merda. È vero. Opzione per spararsi in testa. Ora, subito. Gioca la memoria per uccidere tutti. Ma scusatemi, lei gli chiede... Come hai fatto a tirare giù la barriera? Mi c'è una cosa difficile, giusto? Cioè, datemi torto, Bianni, ci mi dai torto che per mi c'è una cosa non era una roba... Sì, in teoria sì. Però, cioè, Keiel ha appena detto di averla indebolita. Slash... Ma io ero sufficientemente debole, sono abbastanza versato in questo genere di cose. Sì, volevo che lo dicesse lui. Che non si lui, fosse che... capito. È un esperto. La spilla, tipo... Cioè... domanda, il cognome di coso, di Pietro, mi dice qualcosa? Sì, ti dice, no, che ha mentito. Perfetto, bellissimo. Cioè, o che ti ha mentito o che viene da Scirocco meridionale, cosa sì, che ma non fa. Culo. Sti cazzi, va bene. Cadorna era Terrone, vero? Cioè, prima che dico una cazzo. No, no, no. Di dove era? È del Noide. Andiamo a vedere dove era. Si faceva Pallanza. Un regale. C'è il resto posto. Piemontese, sto zitto. È la fermata della metro di Milano. È la fermata della metro. Cioè, volevo dirlo anch'io. Non penso che la metro Milano dia mai il nome ispirato al meridione. Non penso dopo l'aeroporto Silvio Berlusconi. Cristo. Torniamo. Sì, sì, scusa, scusa. Piccola parentesi. Vescovo di Oclica è stato scelto un nuovo vescovo. Siamo nel 1622. È stato fatto il conclave per il vescovo. Il prozio di Naya sta a un fiore, se te lo stessi chiedendo. Dobbiamo fare 5 minuti di pausa? Sì, sì, dai, dai, da sì, sì, anch'io. Cioè, oddio, ce l'ho qua. Vado vero, a pisciare e bere, yes. Arrivo. Ica, perché mi hai fatto questa cosa? Che non andare via, non fingere di essere andato a prendere da bere. Vado a prendere da bere anch'io, porco Dio. Dimmi. Non va. Perché? Non va bene. Invece quando sai la risposta ma non la vuoi sapere. Qual è la risposta? Ica. Quanti anni ha il personaggio di Ica, Pjanic? 20. Così. Dimmi, Rox, cosa c'è? Niente, non so nulla. 20. Mm-hmm. Qui sei un ragazzino. Mm-hmm. Beh, 20 anni sono comunque... Sara mi ha chiesto in chat da quanto tempo è sposata una certa persona. Stai zitta, Sara! Sara, non, non fare queste domande, non ti permettere. Ci sono più di due persone che vengono da Milano, va bene? Almeno più di due, ok? Bello. Ica. Mm-hmm. Dimmi. Niente. Se ci vedremo mai dal vivo, Ica, ti devo stringere la mano. Grazie. Suplex. Suplex. Proprio ti porto dentro l'ospedale. Ma Sara, è per contro di me. Il personaggio o per qualcosa di particolare? No, sì, non è legato al personaggio. No, no, è così, perché ho detto, vabbè, oggi mi sono svegliato e ho detto, Ica, voglio provocarti dolore fisico. Bella raga. Cosa? Niente, niente. Comunque, se non l'aveste capito, la stronzata del cognome non la sapeva neanche il Bianic. No, infatti, cioè, è stato proprio... Cioè, gli avevo detto, inventatelo, fai quello che vuoi, però proprio hai scelto una cagata. Madonna. Chi manca? Bianic, ma quanto zampino hai avuto in questa cosa? giusto? Ha fatto quasi abbastanza? Tutto Ica. Faccia di merda, guardalo qua. Giuro, ha fatto quasi tutto Ica. Quasi tutto, sei tu che hai dato l'incipit. Sono sicura che hai detto tipo no, tre parole giuste. No, no, no, quella è la faina del mio sacco. Io ho solo cercato di collegare il tutto. Ma ha fatto Ica. Ica è un agente del caos tanto quanto Pjanic. Esatto. Ma che ne sapeva Ica di questo? Entro fine cose? Campagna tutto il gruppo sarà figli e parenti di Zanna, praticamente. Ogni volta che moriamo facciamo il personaggio che è un parente di Zanna. Pensa, uno di voi ha fatto la speedrun a fare sta cosa. Tra l'altro, quindi ho già due personaggi si è tappato io. Hai visto? Ma scusami, Pjanic, com'è successa questa cosa? Due persone si incontrano, fanno lo stesso lavoro. Succedono e poi quando uno fa un errore c'è la pregressi machine. Porco. We love the pregressi machine. No, we hate. Chiedi, qualcuno... scusami, com'è che sto tipo è al mondo se ce l'hai menata così tanto che esiste la pregressi machine? C'è la pregressi machine, lì è nato con la pregressi machine. Ma non poteva disfarsene? No, boh, se l'è voluta tenere. Ah, per poi dire non ti volevo. Vabbè, sì, esatto. Sì, sì, no, no, giusto. Guarda, quando conoscerai la persona mi darai ragione. No, no, ma certo, guarda, è la cosa più normale che ha fatto tra tutte le altre. Allora, Eddie, se avessi un euro per ogni personaggio che ti ha ucciso sto personaggio. Aspetta, se avessi un euro per ogni personaggio? Per ogni tuo personaggio che ha ucciso questa persona avrei un euro. In che senso? Vabbè, niente, questa ce la lascio così. Arriverà il giorno. Pjanic, come? No, no, no, è bene che ogni tanto alcune cose rimangano fumose. Questa non è fumosa, è tipo... Hai appena tirato una bomba in faccia e mi hai detto... Scusa, torta in faccia ed è una bomba. E se ti penso saperlo, l'idea vabbè, mia. Fa niente, lasciamo... Letta su. Quindi possiamo dire che io sono... Vox. Oddio, come si chiamava quello che no, fa esplodere no, le bombe no. Per Berlusconi? Sei non il nome. No, sei equalmente colpevole, perché sei il master e sei tu. Da te passano tutte le scelte e le decisioni, quindi anzi, è più colpa tua che quella dica. Guarda, la colpa è una bella donna, ma non la vuole mai nessuno. Io sarò quello che si immola per tutti. Se ci siamo tutti, a proposito, ripartiamo. Brian e Rick, non vi ho più sentito, non so se ci siamo. Io sì, ci grandissimo. Sono. Sì. Perfetto, e riprendiamo dove l'abbiamo lasciato, cioè Big Revelations. Beh, io sarei quasi tentato di dirgli che cioè, il cadavere di suo padre è poco più là, insomma sarebbe carino se lo vuole, se è così tanto desideroso di vederlo, gli posso mostrare la strada. Lo dici in game? No, no, in game, sì sì. Okay. Per me è ancora uno sconosciuto, ma... Non vedo perché no, se un altro mi può raccontare qualcosa. Il suo cadavere? Qualcosa sulla sua storia, no? Non so. Nonostante questo sia stato molto divertente. Di cosa? Prendere parla coi morti. Mi hai chiesto di cosa studio? Sì. Ah, principalmente magia ontica. Come tutte le grandi persone. Dio porco. Nayet ascolta interessato, Rox piange. Quindi lo vuoi vedere o...? Sì, sì. Vabbè. Erindor, abbiamo una situazione. Gica sta poi. Ciao, mio. È super creepy Erindor che fa. Allora, puoi vedere perché il cadavere di un padre morto. Cioè, non abbiamo fatto così tanta strada per vederlo, insomma. Perché l'abbiamo lasciato come... L'abbiamo lasciato lì a prendere le mosche, insomma, un po'... Davvero rotto. Posso dire, aspetta, lei in più. Quello che ha ucciso tuo padre, che ti porta a vedere il cadavere di tuo padre? Io non lo so ancora. E comunque le mie intenzioni non è che fossero... Così come i migliori amici, mi sa. Erindor, lieto, uccidere Zanzan. E vi ricordo che siete tutti messi male tranne Erindor, fine della lista. Esatto. È stato molto veloce. Io sono appena arrivato. Sì, vabbè, ovvio. New characters esclusi. Sono appena nato. Vabbè, però vabbè, se domani allora a sto punto vogliamo... No, Atore dice non credo ci sarà un domani Erindor. Ah, è una di quelle sette in cui se vogliamo agire dobbiamo farlo adesso. Vabbè. L'ha detta in character, non me ne frega un cazzo. Non volevo domani. Dirla in character. Ok. Ma, non so se... perché... Nea si gira verso di te, Lieto, e ti dice, allora, mi dispiace veramente tantissimo per tuo padre. Secondo me la cosa migliore per te è andare il più lontano possibile da qui e dimenticarti di averci incontrato. Wow. A questo punto sono abbastanza curioso del superlettile lì che mi sta guardando. Clink. Del? Parlavo di Kayel. Parlavo di Kayel. Sì. Io e lui ci capiamo. È il supermobile. Un'altra parola per supermobile. Si chiama Kayel. Non è vabbè. Entro in Kayel. Vorreste essere voi. Sta cagata, madonna. La dicevo io, quindi... Che cosa vuoi sapere? Io mi pare di aver studiato sufficientemente, ma questo non rientra nelle cose che ho incontrato, né in biblioteca, né negli studi, da nessuna parte. Sai dirmi cosa è successo? Come sei diventata come sei? Immagino che Zanzan avrebbe voluto dirtelo. Si gira con uno sguardo gelido verso Ren e dice: per favore, vai da Carl. Perché devo parlare di cose che non puoi sentire? Ok. Ciao. E Ren se ne va in maniera molto imbarazzata. La donna meccanica, ormai abbiamo deciso che è stata degradata da essere umano a battuta. No! Battuta no, nel senso. No, però considerazione oggettiva di quello che è. Via di mezzo tra il pappagallo e Zanzan. Non sei sotto contratto, vero? No. Riesco a percepirlo. Io ho una protezione. E il prezzo da pagare... Il tatuaggio che hai lì. Lei abbassa la camicia per mostrarlo completamente e vedi che il simbolo... Quanto l'hai letto bene il libro che ti ho mandato? Molto bene. Sai di chi è quel simbolo? Te lo scrivo e decidi tu. Ok. Le sopracciglia si alzano di 2 centimetri, tipo... Questo inizia a essere interessante. Ho scritto giusto 2 cose sul... Sì. La protezione ha impedito che morissi per la malattia che si sta diffondendo ad Oclica. Dovresti averlo visto che ci seguivi. Avete fatto un trambusto sostanziale. Mi ha protetto dalla morte, ma il prezzo da pagare è stata questa forma. Capisco, questo è molto interessante. E voi invece, voi che cazzo ci fate qua? Tecnicamente saremmo in isolamento, però... In quarantena. Sono successe parecchie cose da quando... Sempre per quello che è successo a Mister Ingranaggio qua. Non esattamente, cioè non è successo a causa sua. No, nel senso, per il solito motivo. Ah, sì, la sì. Solita sì. Malattia. Certo, sì. Ci credevano ammalarti, ecco. Sì. Oh, ok. Ah. E siete malati? Ren, direi che è andata nell'altra stanza, la era. Noi sembrerebbe di no. Ok. Quindi avete trovato una cura? Abbiamo... Lascia che parliate voi. Madonna si avvicina un attimo a Kegel e le appoggia una mano sulla spalla e dice: tutto a posto, Kegel? Ho ancora qualche difficoltà a muovermi. Vuoi sederti? Non è quello il problema. Ok. Cioè, d'accordo, se possiamo fare qualcosa, diccelo. Rispondete alle sue domande. Okay. Usare Expel Evil, quello che toglie i malus su Kael, non avrebbe effetto, giusto? Non sembra avere malus addosso. Ok. Ripeto, secondo me dovresti uscire fuori da questa situazione finché ne sei in tempo. Quanti anni hai? Sei giovane? 20, sono ancora... sto ancora studiando all'università. Quale? La Zenitai! Finalmente qualcuno che... scusami, Bianca, mi fai un attimo refresh, cos'è che faceva la Zenitai? Cioè, era quella che... Perfetto, a posto. Materie scienze, cioè, magia sì, applicata sì. A livello rigorosino. Mm-hmm. Sì. Ok, scusa. Non dovresti... Cos'è che ti ha spinto a cercare tuo padre adesso? Non sapevo il suo nome prima di una settimana fa. Ah, comprendo. Come l'hai scoperto il suo nome? Una discussione tra mia madre e delle altre persone. Naya ti ferma e si ricorda la cosa che tutti noi abbiamo in comune. E... No, fallo, ti prego. No, dai. Che... Fallo. Dai, fallo. Te lo ricordi? Dai, con la voce tremolante come quella di una persona che ha visto The Ring e la gente morire perché ha visto The Ring 15 volte ormai. Fa un sospiro di sollievo, fa un sospiro proprio disperato, ti fissa e ti chiede: c'è una promessa nella tua vita? Sì, hai detto, vabbè. Sì. Tua madre? È mia madre. Ok, scusa. Io adesso posso rollare di nuovo. Vai, te lo concedo, vai. Guarda l'altro, uno che arriva. È destino, è destino! Oh, posso dire il Godopoli? Però... Erindor ha la musica da circo in testa mentre vale succede cimiente. Tutto questo. Bello. Non è possibile. Ancora pensando alla pistola, lui. Di più di tua madre, perché tutti quanti noi abbiamo casualmente una promessa nelle nostre vite e sembra essere un filo conduttore, quindi mi sa che in qualche modo sfortunatamente anche tu fai parte di questa situazione. Mia madre... Per quanto io non voglia credere nel caso e mi rifiuti di credere nel caso, però... Mia madre fa un certo numero di lavori che la portano... sufficientemente in giro. Non tutti sono strettamente legali. Vabbè, però. Sì, cioè... ora ci arrivi. Cioè, ora hai connesso. Dove non arriva la memoria, arriva l'evidenza dei fatti. Mi dispiaceva che sto tirato 4-1 di fila. Cioè, dai. quando te la faranno vedere e questa è una sua foto, allora dici vabbè, cazzo. Io aspetta un attimo. La lampadina fioca che si accende. Quei due neuroni che finalmente... È risparmio energetico, ci mette sì. Un po' a accendere. Oh. Ma quando è accesa, wow, si è accesa. Porca madonna. Vai, Erindor. E cos'è che dici adesso? Esatto. Che l'hai capito? Io però... Adesso che l'hai capito cos'è che dici? Io faccio gulp e poi la continuo a finire di parlare, la lascio finire di parlare intanto. Ok. Ti notiamo che fai questo gasp. Quanto posso rollare e mentire? Non lo so. Oh, dai, cioè, è una reazione viscerale. È successo. Quindi a questo punto posso rollare io per vedere se lo riconosco. Ma tu non l'hai mai visto lui? Non l'ho mai visto? No. Di sfuggita mai. Eh no, perché la mamma non ti fa avere a che fare con i brutti... brutti ceffi della famiglia. Comunque, okay, questo collegamento l'ho fatto, però c'è un altro collegamento che però non riesco a fare ancora, vero? Non so quale. Beh, perché se vabbè, no, tecnicamente non posso, però con Naya, però adesso non è out of character questo. Sì. È un po' sì. Ok, la situazione si sta facendo freddina. Sì. Principalmente perché avete fatto fuori la porta di casa, quindi entra l'aria fredda. Ah sì, mi dispiace per la porta, posso farne una nuova se serve. Ok. Sarebbe gentile da parte tua, non andrò a mentire. Ok. Ma in realtà dovremmo andare via. Dove non c'è problema. È una porta, cioè, un affare di legno, credo. Una forma. Prima di andare via, magari dovremmo un attimo decidere cosa fare noi. No? Mi rifiuto di seguire qualsiasi piano fosse quello di Devin. Ma veramente io vedo il fagotto di felicità che c'hanno sì. In mano. Direi che hanno una palla abbastanza visibile di... E quello che cazzo è? Ah, questo... Non saprei da dove iniziare. Jim, volevi dire qualcosa prima o... No, prima esauriamo questa cosa del fagotto e poi dico il mio suggerimento. Ah, ok, era scusa. Te lo spieghiamo semmai quando... dopo aver visto tuo padre. Te lo spieghiamo dopo. Sì, andiamo prima a vedere, cioè, a fargli vedere suo padre, guess. Se ci tiene. Se vuoi che andiamo e torniamo da sta cazzo di casa, mentre siamo ricercati. Io, allora, non avendo più visto mio padre, dopo che se n'è andato, avrei voluto vederlo un'ultima volta. Una prima volta. È carbonizzato. Cioè, sì. A proposito, Kiel... Dimmi. A proposito, ti ricordi che quando mi arruolasti per venire mi ricordo. Con voi questa sera mi dicesti che mi avresti detto qualcosa di mio padre? Mi ricordo. Possiamo parlarne mentre andiamo verso la casa. Si è autoinvitata, non so se l'avevate capito. No, va benissimo. E... ok, nessuno di voi è obbligato a fare questo viaggio verso la casa. Io ce l'ho sto fagotto in mano, vero? No, ce l'ho io. No, perché io avrei reagito in una maniera totalmente differente. Smettila, non ce l'hai. Ce l'hai Ivan il fagotto. Non te lo sei meritato. Ma avrei reagito in maniera completamente diversa, perché avevano detto, non è che possiamo ritornare. No, non può ritornare, non si può ritornare a mangiare la parola, cioè, voglio dire. Tu non avevi sentito. Avete descritto, lo dà a Erindor nel fagotto. O sbaglio? Non avevo sentito che non avevo che avevo io la pistola. Rick accetta la situazione. No, non accetta la situazione. e... A parte perché comunque il sofagotto chi ce l'aveva fino a questo? Ivan, così a caso, scusami. Ivan! Allora, Ivan no, non c'è a caso, ha menato Devin a morte, ok? Sì, ma io non gli avrei ridato la roba subito, cioè... Ma tu eri accecato. Ma quale no, fagotto? Ma intendi l'artefatto, Rick? Sì, abbiamo fatto tutta una scena di io che vi tolgo il coso. E lo appoggio sul fagotto. Possiamo tirare una moneta? Possiamo tirare una moneta per decidere chi ce l'ha il fagotto? Ci sto. Vai, io lascerei... Master. Io Anaya, onestamente. Vabbè, perché io adesso... litigante, no, non lo so, o a Gideon, qualcuno di abbastanza neutro. No, ma più che altro la cosa è stata... Aveva... Neutro di me è a lungo. C'è stata... Raga, veloce. Allora, Ivan aveva picchiato Devin. Devin è svenuto. È uscito l'artefatto da Ivan. Erindor ha detto che è andato verso... No, è arrivato no, da lui. Ha saltato un passaggio, Rox. Ok. È perso quello. Quando esce da Ivan, viene avvolto dagli sterpi. Poi, okay. Questa cosa qua, avvolta dagli sterpi, cade per terra. E Erindor la va a prendere e la avvolge nel fagotto. Cioè, e poi va verso Devin di nuovo in modo sneaky, però viene beccato da Ivan. Sì. Sì, finisce lì, non ha mai menzionato di sì, ma lì si è ripreso. No. Sì, ha detto che si riprendeva il fagotto. No. Oh, sì. Cioè. Io me lo ricordo. Bianeccio. Diventi. Dispari Ivan, pari Erindor. Più fair di così non lo so, perché anch'io avevo capito l'altra cosa, ma non ne sono certo e non ho intenzione di andare a vedere un'eventuale registrazione. Parlo io. Ah, vabbè. Pari ce l'ha? Non mi ricordo chi cosa fosse. Non mi ricordo. Neanch'io. Pari Ivan, dispari Erindor. Ok, ah, ce l'ho io. Vabbè. Con un 20 naturale, sprecatissimo. Sprecatissimo. E mi spiace per Erindor, però hanno scelto i dadi, quindi io me ne lavo le mani. Ok. No, però cioè nella cacciara si è perso tutto un procedimento. Sì, sì, penso che un po' passato, poi lui c'aveva il cazzo di poteri magici e se l'è ripreso. No, la teniamo così. Yes. Ok, quindi ditemi chi è che vuole tornare effettivamente all'altra casa. Io no, rimango bene. A caso qua. Ok. Ho 4 punti vita e non posso più fare magie. I am done for the day. Gideon va a dormire. Sceglie sì. la strada di Carla per oggi. Quella della salvezza. E gli altri? Io mi accollo. Vabbè dai, mi accollo. Cioè, ti accolli nel senso stai a casa? No, che è vero. Quello è l'unico sano che è in grado di affrontare un viaggio del genere. Ok. No? Lieto è stanissimo, Erindor è stanissimo, Kjell viene perché ormai è andata, cioè è così la sua vita. Ivan e Dadone? Vengo. Dadone non ha più nessun motivo per venire. Se Kjell sta con me a casa, io rimango... non lo so. Kjell viene con noi. Io seguo... infatti. Lieto. Va bene, allora andiamo. Bene. Questi bei 5 punti vita. E nessuna memoria da usare. Sono 4 di troppo. Sono d'accordo. Raga, mi deve raccontare di mio padre cosa devo fare. No, senso. Non ti stavo flammando. È con cioè, noi, ma è con noi. Proprio dire. Uscite fuori dalla porta, fatemi fare. E vedete che Devin è ancora lì. Appeso immobile. No. Volete fare qualcosa? Non lo vogliamo tirare giù. Vorrei vedere le reazioni di Kjell un attimo, ragazzi. No, una reazione a sto punto, se lo vede lì. È vero, c'hai ragione. Posso coprirgli il viso? Vai, coperto di sangue, mi pare. Cioè, sì, massimo sì. Dovresti togliere. Punto, non lo vuole vedere! Per peggiorare la situazione, gli vedi pure il cappuccio. Comunque condannati a morte. Ma praticamente... Io, scusate, ho una domanda genuina. Non credo che sopravviva, a prescindere. Cioè, gli hai attaccato la faccia e l'hai lasciato lì all'interperi. Quindi, buoni questi microbi, queste malattie. E vai in necrosi domani mattina. Non esistono i microbi, queste malattie. Ah, le malattie. Tecnicamente è vivo, quindi... alla Batman. Il battito c'è. 5 minuti, sì, credo. Ok. E che Yale, in effetti, avete ragione, dovrebbe reagire. Lo avete immobilizzato, vedo. Ivan. Sì. Non mi ricordavo sapessi usare la fitomagia. Non la so usare. Ho capito. Si avvicina a Devin. Alza il braccio molto lentamente. Gli tocca la faccia. Lo carezza per quanto può con il suo braccio meccanico. Riabbassa il braccio e dice: sono certa che starà bene. Non lo vuoi tirar giù? Vi fidereste di me se lo facessi? Beh, ormai è inconscio, cioè non è che... No, andiamo avanti. Vabbè, però al ritorno, cioè, se no muore veramente, cioè... Vabbè, andiamo. Mentre passeggiate... Io non so se volete raccontare la storia a Lieto nel frattempo. Sicuramente che Yel racconta a Ivan quello che sa su tuo padre. La creatura con cui ho stretto un patto, diciamo, mi ha raccontato alcune visioni di un futuro, non necessariamente il mio. Alcune di queste coinvolgono un'isola a sud di Scirocco, ma non è importante per te. Apeira è una città nell'est di Achaies, la penisola gemella di Scirocco, e la centrale è stata costruita di recente, e mi sembra una quarantina di anni fa. Forse meno. Dammi un attimo che lo vado a cercare. Se ho detto una stronzata, è stata costruita 34 anni fa. Rewind. 34 anni fa ha partecipato tuo padre alla costruzione e la creatura mi ha detto che non è stato ucciso durante un incidente legato alla costruzione, ma che la costruzione è stata fatta intorno a tuo padre. What? A mio padre. Intorno? Esatto. Intorno. What? Ok. Come cacchio l'avevo chiamato mio padre? Sergei. Sergei. Due anni dopo. Pardon. Due anni dopo venne creata un'altra centrale a Zaikista nell'impero. Credo che un altro tuo parente sia lì. Tu hai altri parenti? È una domanda? Sì. Che io mi ricordi, il mio unico parente era mio padre, mia madre è morta. Tua madre è morta dopo tuo padre? Dopo mio padre, anni fa. Ma di mio padre non mi ricordo nulla. Interessante. Credi che ci siano possibilità che tu abbia dei parenti che non conosci? In che città hai detto, scusa? Apeira e Zaikista. Non penso. La mia famiglia viene da est. In effetti è da un'altra parte. È strano, dovresti controllare le due città. La creatura mi ha detto che avresti rincontrato la tua famiglia, che era scritto nel tuo destino. Perché dovrebbe averti detto qualcosa del mio destino? Ha detto che tu sei una parte del puzzle. No, ha detto che tu sei una pedina del loro gioco. Se sono una pedina allora non lo farò. Cioè, È una scelta migliore di quella che ho fatto io. Questo è tutto quello che so sulla tua famiglia. Ok, grazie per avermelo detto. Mi era suonato familiare il tuo nome. Se non erro, l'uomo in questione è Sergei Vionic, mentre l'altra persona, che non so se sia tua parente a questo punto, si chiama Rebecca von Slebila. Ripeti per favore, Von. Te lo scrivo o te lo dice lei? No, scrivimelo. Lo metto in chat. Se mi puoi scrivere anche le città, per favore. Dammi solo un secondo. Intanto che avviene questa conversazione, voi volete Lieto vuole dire qualcosa a voi? Voi volete dire qualcosa a Lieto? Io devo chiedere Lieto, prendo un attimo di sparte e dico, ma se ti dico Corona Nera, cosa, qual è la storia? Lieto ti guarda, alza mezzo sopracciglio. Sì, direi proprio di sì. Oh, ok. Quindi non ci sono più dubbi, ok. Da quello che ne so, la famiglia è bella invischiata, la mia famiglia. Però io comunque non ne so molto, quindi... Mi hanno lasciato fuori da tutto. Mia madre ha comunque sempre cercato di lasciarmi molto distante, anzi non me l'ha mai detto direttamente, però alcune cose sono state un po' troppo evidenti. E quindi e non c'hai un buon rapporto con tuo mondo? No. Ok. Pessimo. Se l'hai conosciuta, capisci perché. Sì, in effetti non è amabile, diciamo. Qualcuno di voi ha un'opinione diversa? No, ditelo, No, basta capire. Io non sto sentendo conversazione. Ma era abbastanza in disparte, non volevo che sentissero, quindi... Scusa, no, tanto Adone è più vicino a Ivan che Yel. Okay. Comunque, io non so se volete parlare di altro, volete dirgli qualcosa di Flea, vai. Beh, no, io volevo parlare con Keyel, quindi... Ok, sì, facciamo prima Erendor. Volevo fargli un riassunto di quello che stava succedendo, insomma, se lo merita. Insomma. Se lo merita da morire. Grazie. Glielo fai tu, glielo faccio io, glielo fai e abbiamo capito. Glielo faccio io, però sei tu a spiegarlo. Ok. Aspetta, prima che tu lo faccia, però possiamo chiedergli più informazioni, perché finora è stato estremamente vago su tutto quello che ci ha detto. Cioè, nel senso, penso che anche Harry non se ne sia accorto che a ogni domanda che gli facevamo ci rispondeva con mezza verità. Io sono ancora un po' flaggerbust della Revelation, non ci penso troppo, cioè, dalle implicazioni più che altro. Cioè... No vabbè, fai tu. È proprio, sto facendo tanti 2 più 2, quindi non è vero. Ok, da che punto vuoi partire col riassunto? Ma penso del... Dalla chiesa. Ok, quindi non la centrale. Sembra un po' esagerato. Okay. Alla centrale. Ti ricordo che tu piuttosto che dire volta, metà delle informazioni. Almeno... Una volta. Ti ricordo soltanto, Rick, che tu piuttosto che dire qualsiasi cosa al resto del party stavi per morire a certi punti. Quindi questo qui che arriva di colpo gli vuoi Ma dire lui lo tutto. Conosce. You do you. E questo è il problema, cioè... Non so sua madre. No, comunque dalla chiesa, perché comunque aveva detto che allegedly era lui che aveva bussato, quindi quindi almeno da lì sembra abbastanza buono di partenza. Anche perché la centrale è arrivata ed era chiusa, quindi insomma, non vedo sì. Perché dovrei rispondergli. So che alla centrale avete fatto qualcosa, cioè il più deficiente dei deficienti faceva 4 più 4 a quel punto. Ah, ha creato un bel casino. Però non penso. Non so essere. Cosa avete fatto. Esatto, cioè, non penso siete che possa in venire... di voi. Non penso che riesca a venire naturalmente nella conversazione, quindi gli dico solo dalla okay. Chiesa in poi. Rodvold, glielo raccontiamo o no? Dici... Oddio, ho un lapsus. Rodvold che diventa un angelo. Ah. Effettivamente Erin stava scappando via dalla situazione, quindi... infatti, l'ha visto succedere, non sa come è andata a finire. Esatto. Non penso di... Magari non spiego come sono codalmente scappato. Sì, sì. Però gli racconti che hai visto sto ragazzo, cioè che il vescovo è arrivato, ha fatto la benedizione e poi è esploso. È diventato un mostro meccanico. Sì. Lo hanno affrontato, lo hanno spaccato. Sono andati al piano di sopra. C'era il maggiordomo della principessa. Pardon. Hanno... sì, perché quello comunque è influente sul fatto come è morto poi Zanzani. Sì. Devin, che è il tizio appeso, ha litigato con il maggiordomo della regina e si è preso un pugno in faccia. Sono andati giù perché, ok, non litighiamo, eccetera, perché Adone aveva parlato con la principessa e sapeva che stava bene. Al piano di sotto hanno risolto alcuni problemi, hanno parlato un po', e quando finalmente le guardie sono riuscite a entrare dentro la cattedrale, Naya ha ucciso Beatrix. È importante ricordarlo sempre. Naya ha rivelato a Beatrix dei segreti della centrale, ed ecco che entrano in gioco, che l'hanno uccisa istantaneamente perché era sotto contratto e non poteva rivelare niente, mentre rispondendo a una sua domanda ha rivelato qualcosa e questo ha causato la sua morte. Rodvold, che forse conosci di fama, perché suo zio è un pezzo grosso dell'esercito, era andato in pensione 3 giorni fa, non mi ricordo, da poco. È trasceso ed è diventato una roba con un'aureola triangolare, delle ali, ha iniziato a fare magie strane, e con il dono della parola sono riusciti a calmarlo. E ne sono usciti vivi tutti, tranne Beatrix, pace all'anima sua. E, però, visto che chiaramente la situazione non era sostenibile nella cattedrale, hanno portato via tutti quelli che non erano strani, tranne che Yel, e gli altri... Non si sa che fine l'abbiano fatto, non si sa che fine abbia fatto Rodvold, non si sa che fine abbia fatto il cadavere di Beatrix, non si sa che fine abbia fatto il cadavere del Vescovo, non sapete che fine abbiano fatto i cadaveri dei 3 soldati uccisi dal Vescovo sfigurato, né il quarto tizio che Naya aveva salvato, non avete idea che fine abbiano fatto. Dimentico qualcuno? No, poi li hanno portati. In realtà il quarto avevo chiesto a Maria e aveva detto che era stato rinchiuso in isolamento anche lui, ma che non c'era. Ok. Erindor, la sa sta cosa? Cosa? Scusami, sono distratto dalla discussione. Il quarto dei soldati che sono stati attaccati dal vescovo sfigurato è stato trasportato in una zona di quarantena separata. Questa cosa... Sapere che sono tornata a cose finite, più o meno. Quindi... Ok, quindi non la sai sta cosa, quindi non gliela puoi raccontare. Esatto. E... Cosa dimentico? Niente, sono stati alcuni giorni in quarantena. In quarantena hanno setappato questo piano perché Ren stava morendo e Zanzan voleva a tutti i costi salvarla, e Devin aveva un piano malvagio che consisteva nel rubare l'artefatto di Aidos, il maggiordomo, eccetera eccetera, ed è andata a finire come puoi vedere dai risultati. Questo è il riassuntone che ti fa Erendor. Mi hanno detto qualcosa sul fatto che Yel gli ha tolto i contatti? Beh, per attuare il piano penso di sì. Sì, per forza, cioè, altrimenti non potevano uscire di lì e non potevano parlare liberamente di quello di cui stanno parlando. Okay. Quindi sì, ti ha detto che Yel è in grado di cancellare i contratti. Qualche menzione alla visione peculiare? Decidete voi. Esatto. La le visioni del tizio che a Singida fa una strage, Ah, l'avete detto tutto. quella visione, ok. Boh, quella non mi sembra una roba che puoi discutere. Cioè, ah, sai, ho visto anche attraverso gli occhi di un demone che ha ammazzato diverse persone. Non è una roba che mi viene naturalmente in un discorso. Ha senso. Dopo tutto quello che hai detto, è tipo. Vabbè, però insomma, cioè, appunto, almeno gli altri sono constatazioni. Ah, una certa zanzara ha fatto diventare giorno nel mezzo della notte. Ah, è vero, Quello va estremamente detto. Quello va interessante. detto. E con un mago particolarmente potente, quindi mio padre. Diciamo che aveva gli agganci giusti. Superiva le capacità con le conoscenze. Bello. Ok, volete interagire fra voi altri o arriviamo alla casa? La mia Ah, cosa. io ci tengo a far sapere a quelli che Eddie. mi stanno seguendo. E che Yel, devo Ah, fare due sì, domande. ok. Facciamo fare prima sta cosa, poi torno da Teika. Vai, cosa le devi Vai, chiedere? tranquillo. No, Adone, dopo che Ivan ha finito di parlare con Kiel, Adone va e gli dice: non è un bel momento, però avevi detto che avresti potuto aiutarmi sulla mia maledizione. Non sei esattamente maledetto. Sei sfigurato. Sapresti, cioè, non mi ricordo, non gliel'ha spiegata sta cosa ad Adone, ok? Sapresti spiegarmi un po' meglio cosa significa? Significa che tu hai infranto un patto con un diavolo. E lui, per vendetta o per giustizia, ha inflitto a te una ferita permanente. Nel tuo caso è molto piccola, è strano. Il fatto è che io non ricordo di aver fatto nessun patto, ma è una cosa che mi è successa da piccolo, quindi potrei essermelo scordato. È anche possibile che qualcun altro abbia obbligato a farti fare un patto. Questo spiegherebbe magari perché sono così poco sfigurato. Potrebbe essere un motivo, il contratto non era completamente corretto. È strano che non sia stato evocato Quibble. Hai memoria di una sua evocazione? Quanto mi ricordo del Quello che rituale? c'hai scritto. Perfetto, perfetto. E, allora Done pensa. Mi ricordo qualche cosa, ma non mi sembra riguardi l'entità di nome Quibble. Mi ricordo polvere, cenere, catene, fumo e musica. Molta musica. Inclina la testa. Musica? Sì, è un po' quello il tema dei miei Musica. Ti incubi. guarda dritto negli occhi, ha uno sguardo estremamente penetrante. Iri. Sì, musica. È un problema? Sicuro che fosse come questo? E si segna il sigillo. Credo. Hai un ricordo o un esempio del sigillo? Ce l'ho, Biani, c'è col cazzo. Adone dice no. È possibile che allora non fosse questo genere di cose? No! Quindi non era un diavolo? Dovrei vedere il sigillo per confermartelo. Non. Se mai lo dovessi trovare, portamelo a farlo vedere. Domanda genuina, Bianice. Dov'è successo? Dov'è accaduto il rituale, Dovresti chiederlo a tuo padre, tu non te oggettivamente? lo ricordi. Ah, c'è ragione. D'accordo. Conosci qualcuno a cui potrei eventualmente chiedere una mano riguardo a queste cose? Posso provare a pensarci, al momento sembra un discorso che non fa per le mie capacità. Adone è comunque preoccupato verso Kael, cioè apprezza le informazioni ma è molto preoccupato. Dice Kael, non... sono un po' preoccupato per te. Ho finito le sigarette, forse sono in astinenza. Adore non può, dice. Beh, magari potevamo chiedere a Carlo se ne aveva. Ci penseremo quando torneremo. D'accordo. Arrivate alla cazzo di casa, o qualcun altro vuole fare qualcosa? No. Ah, ne, io volevo dire. Poi. Ah, vai, vai. No, no, appunto stavo dicendo, non è che non c'eri tu che dovevi finire di dire. Ah, okay. No, io volevo sapere a quelli con me che sono riusciti a entrare, anche perché c'era un sacco di presenza dell'esercito intorno alla casa e se ne sono andati di gran carriera. Lo sentite tutti, come se fosse successa una cosa grossa, cioè... Altrove, dici? Altrove, sì. Sai dirmi la direzione? No, non è stato un teletrasporto e quindi... Addirittura? No. Quindi doveva trattarsi di qualcosa di sicuramente importante che... Nella visione i soldati erano teletrasportati? Sono comparsi dal nulla ed erano più di quelli che ci stanno in una città di quelle dimensioni. Allora, ok. È ok fare 2+1 in questa situazione? Sì. Allora, ok. Sì, sì, sì. Cioè, non, nel senso, se dovessi scommetterci un braccio, non lo farei io. Però okay. È plausibile. Ok. Comunque, se eravate preoccupati dall'essere inseguiti, non succederà a breve. Se non altro, non con il numero di guardie che c'erano fuori, perché prima che tornino queste, c'era un po'. Ok. Quindi direi che è anche l'occasione perfetta per andare alla cattedrale. Dopo. E implica la visita a Zonzon. Sì, meglio che dopo andiamo alla centrale, o fanculo, alla cattedrale. Beh, ricordai che siete tutti mezzi morti, cioè. Dopo domani, nel senso. Vai, Jin. Io suggerirei di andare da mia moglie, che ci può curare. Credo che tua moglie sia stata avvisata. Il mio spirito è sparito, quindi qualcuno gli deve aver fatto del male e quindi aver preso le lettere. Spero proprio sia stata tua moglie. Che se gli ha fatto del male, non gliel'avete spiegato ad Erendor, quindi ho inviato, grazie al mio spirito, grazie al mio famiglio, ho inviato una lettera alla moglie di Ivan e era scritto nelle istruzioni di uccidere il famiglio una volta preso il messaggio e letto. Okay. Così è stato, ma io non ho la certezza che sia stata Thea a leggerlo o a uccidere il mio famiglio. Allora, considerando che l'esercito è andato in gran carriera da qualche altra parte, penso che mia moglie sia abbastanza safe e visto che è la persona più vicina di cui ci possiamo fidare, che sa più di quello che noi sappiamo probabilmente e sa cosa possiamo fare con questo orb. Sì. Quindi cioè, voglio andare da Zanzan, tornare indietro a prendere Gideon e poi andare... Vabbè, Gideon è di passaggio, cioè di strada quantomeno. Ah, ok. A parte che... out of character, logisticamente non dovremmo riposare a un certo punto. Sì, esatto, essere una e mezza alle due di notte, sì, in effetti. Sì, ma sono tutti appunto, cioè, Come fai? Non è o adesso possibile. O mai più perché non ci sono le guardie in giro, cioè non è che c'è. Ma lei ad uno scontro adesso sta facendo i chilometri avanti e indietro già due volte. Sei tu che hai detto a cosa di andare a vedere il suo padre morto, voi che mi va state bene. Seguendo. Siete state voi che mi state seguendo, cioè, io sono in grado. Allora, andiamo avanti. Non stavo qua fino raggiungete qua. Finalmente la casa, il rudere. Lo descrivo più a lieto che gli altri. Oltrepassato il primo blocco che costituisce il primo muro che costituisce la struttura, la facciata della casa è stata completamente distrutta. I detriti ora riempiono il pavimento e non ci sono segni di vita, cioè sembra un posto abbandonato. In realtà il fatto che il muro sia crollato è solo leggermente strano rispetto al fatto che la struttura sia così decadente. La finestra è sbarrata, insomma, la struttura è rovinata. La maggior parte dei licheni e delle piante che crescevano sulla facciata e sul bordo del muro della casa si sono strappati, sono stati sradicati, rovinati, però nelle parti lontane invece sono ancora lì, alti più di un metro. L'odore che si sente è quello di polvere, appunto come se aveste appena aperto un grosso baule. Oltrepassate il muro e all'interno la casa è buia. Vedete un corpo nell'oscurità sdraiato ancora per terra, face up, e in fondo un baule aperto. Nella casa non sembra esserci nient'altro, le sedie che c'erano si sono spaccate tra le esplosioni e le altre cose, e quindi ci sono praticamente dei detriti anche al loro posto, dei pezzi di legno, dei pezzi di metallo. C'è un solo cadavere, e poco più in là ci sono dei vestiti abbandonati. Per quanto tu possa vederlo nell'oscurità, sono sporchi di sangue. Vai, vai, scusa. Dietro si avvicina l'unico cadavere della stanza. La cosa che ti colpisce di più non è tanto la sua stazza, avevi immaginato che fosse un uomo di dimensioni importanti. Quello che ti colpisce è il colore della sua pelle. Ah. Che è... Questo spiega tante cose. Completamente nero, sì. E fino a questo momento non ne avevi idea. Insomma, figlio di un... E ci fila uno slur in mezzo. Orso, tipo. Abbiamo decretato che è. Orso, a posto. E... Se gli frugolate le tasche mi trovo qualcosa, tipo? Trovi tutto il suo equipaggiamento al netto dei proiettili e dell'archibugio che erano sparsi davanti alla casa. L'equipaggiamento di Zanzan era tipo... La droga. La droga. La droga e qualche moneta. Ah, ma anche la pistola. Era diventato stricco nel frattempo. Sì, ma dietro aveva degli spiccioli. Sì, esatto. Gli spiccioli. Aveva 5 manapenny. e 5 unità di droga. E immagino di sapere cosa sia la droga. Sì. Andando all'università sei... Ti è chiaro questo genere di robe. Raccogli i manapenny, te li segno, eh. Raccolgo i manapenny e anche la sacchetta di... Family. Droga. Family. E... La tua opinione di tuo padre è appena scesa di una tacca. E dirà già meno uno, quindi è tipo... Ah, pure un tossico. E vabbè. Capisco tante cose adesso, madre. Tante cose. E... Vai, dimmi. Gli lasciate un momento per il suo singolare morning, immagino, e immagino rimaniate tutti un po' fuori, per una questione di rispetto, dico, poi ditemi voi se... Ok, vai. Io sto sul guscio, poi dopo gli vorrei raccontare che comunque Zan è andato lì per aiutare Ren e tutti quanti, insomma, cioè... L'abbiamo un po' aiutato alla fine. Quindi non era così pazzo di merda criminale. non lo so ancora in realtà. No. Io sono lì che proprio con i denti fuori, dico sì. Sta zitto che l'hai ucciso te, guarda. È un orso tossico per ora. Esatto. E effettivamente Ivan ti racconta sta cosa, cioè che è, quantomeno è morto con dei buoni propositi. Ok. Appena ho qualcosa di decente nella sua vita è riuscito a farlo, I guess, prima di stendere. Lo ricompone un pochino, cioè magari lo mette tipo... sistema le braccia, sistema, gli dà un'occhiata. Per cui possiamo anche andare. Considerando chi ti ha cresciuto, tu hai un'idea molto precisa di come si fanno i riti funebri e non c'è modo di farlo al momento. Possiamo lasciarlo qua, immagino. È quello che ti volevo dire, cioè la cerimonia come va fatta non avresti modo di farla mai, cioè non esiste sta cosa. Qualcuno sa i rituali del suo posto? Del suo posto? Il suo posto. Di sto cazzo di party? Se ne va uno, mi sa che è morto. Mi sa anche no. A me. Sì, no. È il caro Zan Zan. E la... Batu aveva un'altra idea, aveva un altro posto. Dai, io no, il mio amico era... Vero, c'hai un amico berber, Roland di 10. Un altro uno. Più? Forse li bruciano. Storia. Geografia, se c'hai più, no, c'hai uguale, più uno. Forse li bruciano. Beh, è comunque più fitting. Ti aiuta a ricordartelo. Cos'è? Mi sembra comunque più adeguato di lasciarlo qua, alle intemperie. E gli do fuoco. Fireball! Non ti faccio rollare niente, ma voi vedete che Lieto casta una palla di fuoco sul cadavere del padre, allegedly, che inizia a bruciare per un paio di minuti prima di spegnersi, e resta un cadavere incenerito, irriconoscibile. Quando... Io comunque qua ho fatto. Se volete tornare indietro vi accompagno. Io avevo una domanda, Bianice. Lo scrigno in cui c'era l'artefatto è uno scrigno, cioè una grande. Ma più una botte. Ok. Vuoi andarlo a controllare? Non ho capito. No, la mia idea era di prenderlo per metterci dentro l'artefatto, ma se è una botte non possiamo portarti dietro una botte. Non è sneaky portarti dietro una botte. Infatti. In effetti. Quindi a posto. Ok, ma tanto avete una palla gigante, non è un problema. Dicevi, Gin? Non vediamo così la botte. Cioè. Avevi detto dei vestiti per terra, così, che erano i vestiti del... maggiordomo. Li volete maggiordomo. Raccogliere? Posso guardarci dentro? Devo andare a vedere la scheda perché non mi ricordo se c'è qualcosa nell'inventario. Ti fa ridere sta cosa? Sono povero. Sì, che siamo ritornati per il loot. Allora, letteralmente. Ma qui è loot, ma che parete di merda. Guarda, sono perfettamente d'accordo. Aidos aveva la simpatica abitudine di andare in giro con un cazzo di niente dietro. Sì, nel senso che non aveva né monete né oggetti di valore. Detto questo, il riccone che va in giro senza oggetti di valore. Sì, i vestiti in sé sono di ottima fattura. Sono stanco, non riesco più a parlare. Neanche le chiavi di casa, esatto. I vestiti in sé sono di ottima fattura e quindi è la cosa, cioè sono di valore di per sé, slash sono offrono una certa resistenza. Dopotutto, quello che è successo sono ancora integri, tra l'altro. I vestiti di Zan Zan non erano stati così fortunati. E sì, qua mi risulta che non ci abbia nulla di rilevante. Per caso i vestiti mi danno un po' più di protezione, non penso. Allora, non so se a te nello specifico... A te no. Al resto del party sì. Dai, vai, prendete voi. Io non li metto i vestiti di un cadavere. Il tizio morto. Il maggiordomo maledetto, cioè di porco. Cioè, che stiamo è second hand. È chic, second hand. Ma quindi scusa, c'aveva solo i vestiti, cioè non sì. C'era niente. La giacca, dai, la giacca, tenete. Il resto ci sta che faccia schifo indossarli. I pantaloni li avevate strappati, se vi ricordate. Sì. Bah, io direi di tornare e basta. Ok, quindi direi che né Naya né Adone vogliono indossare la giacca di Eidos. No, grazie! Mi spiace... Ma no. Preferisco non morire. Mi... Allora, segno a Jin che hai una giacca elegante. Ok, va bene, tengo la giacca elegante. Ma sì, ci sta c'è... con tutti quei muscoli. No, ce l'hai nell'inventario, ce l'hai nell'inventario. Ce l'ha piegata e messa in un... in uno slot. Così. Comunque, cosa questa voglia dire? Wow, Eddie, wow. Dilla ad alta voce, tanto siamo crazy. Che dico, Adone che torna a casa con la giacca di un altro uomo addosso. Ti sei divertito, eh? Scusa. Fuori. Un me gli cade in testa. Andiamo a incontrare la Mil, finalmente, una donna. Come vi aveva... Vero. Come vi aveva detto Lieto, non c'è un cane di nessuno in giro. Non ci sono guardie, non ci sono persone, non c'è niente. Quindi sembra super tranquillo, sia l'andata che il ritorno. Sono le 2 di notte, 2:15, 2:20. E ci metterete circa un 40 minuti, un'ora, in base a quanto veloce riuscite ad andare, per raggiungere il posto segreto che ha detto Ivan, che sarebbe... sottobottega del bar dove del loro amico. E quindi se partite adesso arriverete tipo alle 3 di notte? Sì. E sono ancora tutti pezzi morti. Sì, esatto, voglio dire. Però arriviamo lì e possiamo curarci. Sì. Esatto. In molto meno tempo. Dobbiamo chiedere a Ren se vuole unirsi a noi e anche a Carl, suppongo. Sto bene qui. Dio mio. Questa è la mia casa ora. This is my home now. E no, quando ritornate alla casa e spiegate la situazione, Carl dice: per il momento non ho fatto niente di sbagliato e apprezzo il vostro tentativo e sono sicuro che voi riuscirete a fare del bene. Ho grande fiducia in voi, ragazzi. Però questa non è la mia battaglia. Mamma mia. Dietro lo guarda. Ricorda entrambi che le barriere sono abbassate in caso volessero andarsene. Sì, sì, ma l'esercito mi conosce, sono stato uno di loro, quindi non ho nulla di cui temere, stando qua. Ren sospira e dice... È morta troppa gente per me, quindi non mi sembra giusto continuare a rischiare. Resterò qua con Carl. Io ho una domanda. No, cioè, è una cosa che... No, ok, dopo, scusa. Ok, mi manca sapere cosa vuol fare Gideon e che Yel tagalong. Cioè, ormai che Yel non ha più... Io però cosa so di quello che sta succedendo, nel senso... Allora, tu sei stato quasi un'ora in casa insieme a Ren e Carl, quindi hai potuto parlare con loro, se volevi. Okay. E Carl non sa nulla, e appena cerca di menzionare qualcosa, lui ti dice... Good for him, I guess. E Ren invece sa quello che gli ha detto Kael, quindi tutte le informazioni safe, ma... Il fatto che ormai lei è guarita, non ha più niente da rischiare. C'è la siringa piena di quel materiale in un punto a cazzo della casa, quindi se durante questo periodo la vuoi analizzare puoi. E loro non sanno nient'altro, cioè niente di più di quello che sei già. Ok. Poi se vuoi chiedere qualcosa in particolare dimmi, che non so. No, in realtà no, appunto volevo sfruttare il tempo che ho per riuscire a recuperare il più possibile tra PV e mana. Ci sta. Fammi double checkare una cosa. Ma in un'ora riesci? In un'ora ti posso concedere un D6 di uno e dell'altro. Ok. Vai. Puoi tirarli o separatamente oppure uno per entrambi. Come vuoi. Puoi farlo dopo aver rollato. Dai, ho esaurito gli uno di oggi. Wow. Più uno vita e più due mana, o più due mana e più uno vita? Più due vita, più uno mana. Vedo che ha dormito di merda anche Gideon. Sì. È proprio vabbè, un'ora, cioè, è bruttissimo svegliarsi dopo un'ora, onestamente. Cioè. Ti recupera il resto del party. E quindi questi sono quelli che vanno, a quanto ho capito, giusto? Sì. Ma Gideon, sì, Devin nella return lo lasciamo lì proprio appeso. No! Decidete voi. Devin sta appeso. Vabbè. Senti comunque voi. Chiedo dov'è che si va, cioè qual è il piano. E ti spieghiamo che abbiamo intenzione di andare alla cattedrale a riportare l'artefatto alla principessa. Questo è quello che vuole far Naya. Esatto, non è vero, mai. Tanto non mi sembra che stiano dicendo altro, ok. No, a dove vuole andare da te? Era andare da Ivan. Ah, sì, scusami, nel senso si contappa a casa della moglie di Ivan. Andiamo da te a parlare e poi decidiamo cosa fare dell'artefatto. Non andiamo tutti tanto, qualunque cosa Beats staying here ad aspettare le guardie, quindi I guess che vengo in ogni caso, non so neanche perché. Io ho un'unica cosa da aggiungere, che cazzo facciamo con lo strumentopolo curioso che pesa 40 kg? Sotterriamo. I mean, mi sembra l'alternativa. O glielo lasciamo qui da far trovare, che non mi sembra una cosa carina, che magari loro non sanno, cioè anche per loro è una cosa nuova e non voglio che loro abbiano cose nuove. Quindi o qualcuno. Sì, però qualcuno c'è anche Ren che dal giorno alla notte è diventato lo sotterriamo. C'è Ren che è diventato sano così. Sana facciamo una cosa, che però lo beccano subito. La cosa che magari potremmo provare a fare è sotterrarlo tipo distante comunque dalla casa. Cioè magari ce lo portiamo un attimino dietro. Allora, un oggetto di 30-40 kg portartelo vuol dire che prendi 1/2 di fatica ogni turno, ogni 8 turni. Tanto 30-40. Neanche se tipo 3 ce lo teniamo in braccio. Ma cioè è piccolo, è denso. Esatto, è una siringa, capito? Cioè non è una roba che ti metti uno di qua e uno di là. Beh, se allora... serve una mano ci faccio i piegamenti con quello di solito. Figlio di suo padre. Non ma... c'è, non c'è, non c'è. È una fattoria, no? Non c'è una carriola o qualcosa del genere. E vi hanno tolto quasi tutto. Nel capanno erano rimaste delle grandi assi di legno. Cioè, puoi fare una zattera al limite. È vero, sul tavolo dove, Bianic? Sul tavolo in cucina. Carl vi avrà sicuramente detto, ragazzi, c'era questa cosa, non so se vi interessa. Facciamo non l'ho letta, io so, grande rispetto. Ciao, Mai a una certa Adone la passa lieto. Se non lo vuole fare qualcun altro. Cioè, magari ma dice, no, tu vuoi avere... Sì, non so se è già successa sta cosa, perché l'altra volta l'ho mandato fuori sessione. Effettivamente. No, non è mai successo. Infatti, quindi l'avete ritrovata ora. Ok. Chi la trova? Sì. Carl, davvero? No, dai, ma a parte che sono andati in cucina per prendere il medikit. Ma nella cucina. Ma magari l'ha trovata Gideon. Era già in casa. Gideon mi sa che gli fa fare una fine prevedibile. No, dai. La do agli altri. Ah, ok, ci sta. La mancia. Quindi è Gideon a portarvi questa lettera. dai, che la chiudiamo. Ok, Naya sulla lettera. Naya la prende e la legge. Leggila ad alta voce, vai. Io ho imparato a scrivere adesso, di questo ringrazio. Non grande saggio, ma io provo comunque. Mia vita è molto lunga, alle volte non triste. Ultimi giorni meno tristi di tutti. Per oggi tutto bene, altrimenti saluti. Triste solo per Ren. E lei abbassa lo sguardo e dice... Questa mi sa che era la lettera di Fang. E la porge a Lieto. Lieto la prende, la guarda, è un po' emotivo, però non, cioè, comunque è una persona che non ha mai conosciuto, quindi è tipo... Ok. I guess. Ma la posso tenere? Mi dispiace. Se c'è qualcuno che la deve tenere, penso che sia tu. Ma la piego e la filo nello zaino. Probabilmente avrebbe più senso che effettivamente la do a Ren, allora. La porto. Come vuoi, come vuoi. Io sto pensando alle cose machiavelliche, che in realtà il fatto che c'hai sta lettera con te tra 7 sessioni mi tornerà utile, perché ci avrà... Non lo so, stavo già pensando a queste cose. No, ok, la lasciamo a Ren. Non c'è un look, la lettera maledetta. Sì, esatto. Vabbè, magari Ren può dire che non la vuole, la lascia dietro. La chiudiamo la sessione su queste ultime cose che vi dico, che a mezzanotte mi sembra di sentirti d'accordo di chiuderla, giusto? Mm-hmm. Sì, Brian, soprattutto. Sì, esatto. Fate armi e bagagli, prendete quello che potete. Anzi, off screen, se poi Rox vuole, potete curarvi con Rox e gli altri che hanno item consumabili, potete usarli per recuperare vita, mana, quello che avete. E vi dirigete verso la zona malfamata di Oclica, che credo non abbia mai visto nessuno di voi tranne Ivan, se non sbaglio. E la prossima sessione sarà, cioè, parte dal arrivare in questa zona qui. E quindi sì, a Legend li vedremo Thea. Wow. Thea e Dayton, fuck yeah.